La notte prima degli esami. Senza occhiali quelli che sono cercati. L'orale sotto il 30 può far male e sono sotto pressione. Iniziamo così, sdrammatizzando questa notte prima degli esami. Buona serata da Federico Taddia, siamo in diretta dagli studi di Radio 24. Tre ore insieme per questo speciale che ci accompagna verso la prima prova, gli iscritti di italiano, dell'esame di Stato, perché questo è il nome ufficiale attualmente. Una carrellata di personaggi famosi che ci racconteranno la loro maturità, ci daranno le loro suggestioni, le loro dritte, i loro consigli. Tanti maturandi anche convocati per raccontarci in diretta, in tempo reale, quello che stanno facendo, quello che state facendo in questi minuti. Sono le ore prima dell'esame, state ripassando, state studiando, state festeggiando. Il microfono è vostro, il numero verde per entrare in diretta da adesso fino a mezzanotte, l'800 24 00 24, oppure via sms 349 238 6666. Ancora radio24.it, nella home entrate nella sezione notte prima degli esami, c'è un form dove potete scrivere il vostro ricordo, oppure Twitter, il mio account personale Federico Taddia, l'hashtag ovviamente è notte prima degli esami. Tutto questo in collegamento e in collaborazione con il portale, anche la pagina ufficiale loro di studenti.it, la pagina ufficiale di Facebook, e con noi in collegamento dalla redazione c'è Valeria Roscioni. Ciao Valeria. Ciao Federico, ciao a tutti i maturandi che stanno passando con noi questa notte prima degli esami. E non solo questa notte, con voi hanno passato questi giorni, queste settimane, perché siete un po' il punto di riferimento per gli studenti italiani e in particolare in questo periodo per i maturandi. Insieme questa sera scopriremo un po' quello che è il polso della rete. C'è agitazione in questo momento? Sì, guarda, i ragazzi che abbiamo appena chiesto che cosa stanno facendo e si dividono, diciamo, tra chi si è ormai deciso che l'unica soluzione è pregare e quindi sì, si affida ai vari santi, e chi invece ha deciso di mangiare la pizza, guardare la televisione. Tra le cose più quotate c'è l'esorcista. Probabilmente per esorcizzare la paura. Giustamente, per esorcizzare un po', può aiutare, può aiutare. Allora, studenti.it, il sito, la pagina in Facebook, Valeria, ci sentiremo spesso in questa puntata, farai delle incursioni appunto un po' per andare a prendere, così a saccheggiare i tanti contenuti che avete messo sul portale, ma soprattutto per raccontarci quello che sta succedendo in rete, sui social network. A fra pochissimo. A fra poco, siamo a vostra disposizione. 824 00 24 349 238 6666 invece per i vostri sms. Mi raccomando, quelli che sono i vostri ricordi, le sensazioni, le suggestioni che vi portate con voi per quella tappa importante, quella tappa che comunque lascia un segno nel bene e nel male, che si chiama esame di maturità. Quindi se volete così condividere con noi il vostro ricordo, oppure le ansia, la paura, o l'emozione, o lo spirito che vi accompagna verso l'esame, verso domani mattina. E partiamo proprio da una ragazza che prendiamo un po' a simbolo dei tanti maturandi, oltre 500.000 che domani inizieranno ad affrontare la prova. Diamo il benvenuto a Raffaella Zuccaro da Finale Emilia, siamo in provincia di Modena. Ciao Raffaella. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Raffaella, un po' studentessa simbolo, perché la tua scuola è terremotata, avete fatto un anno complicato, un anno nei container, nella scuola prefabbricata, e sapevate però che c'era questo obiettivo, che era arrivare alla maturità. Che anno è stato? Beh sì, come hai detto tu, è stato un anno molto particolare, molto nuovo su molti aspetti, però siamo arrivati in fondo con tantissime soddisfazioni sicuramente. Siamo un po' meno fortunati perché comunque a noi ci tocca di farla sta maturità, l'anno scorso gli altri se la sono scampata, però diciamo che siamo contenti di farla piuttosto che rivivere una situazione come quella dell'anno scorso. Immagino. Voi non rivedrete la vostra scuola, intanto ricordiamo il nome del liceo? Liceo Morando Morandi di Finale Emilia. Perché appunto l'edificio è stato danneggiato, verrà ristrutturato nei prossimi anni, però voi essendo maturandi non rientrerete più in quella scuola. Che sentimento vi accompagna? Beh, sicuramente malinconia, tanta malinconia perché fondamentalmente quest'anno insieme alla nostra preside l'abbiamo passato cercando di lottare affinché il nostro liceo venisse diciamo ricostruito subito. Ovviamente i tempi, si sa, in queste situazioni sono molto lunghi e siamo riusciti a ottenere però la ricostruzione della palestra, che è già comunque un buon risultato per noi. In più le nostre scuole, se ben siano diciamo assimilabili a una costruzione di Lego, sono molto confortevoli e quindi ci stiamo bene dentro, dai. Benissimo. Raffaella, con che spirito vi preparate domani ad affrontare quel foglio bianco? Lo spirito è di... non saprei, io sono tranquilla per il momento, l'ansia penso che arriverà domani mattina seduta al banco, però siamo molto speranzosi e penso che tra noi ragazzi della bassa parlo, la speranza è una cosa che non ci ha mai abbandonato in questi mesi e quindi speriamo in un futuro splendido. L'unica cosa è che spero che ci sia molto impegno da parte di tutti, da parte dei miei compagni, perché appunto dobbiamo far vedere quanto valiamo, non quanto speriamo soltanto, ecco. Questa è la voce dell'Emilia che vuole ripartire anche con l'esame di maturità. Grazie davvero Raffaella, in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi colleghi, i tuoi compagni e le tue compagne di esame. Ciao e grazie. Grazie mille a voi, ciao. E vi ho promesso che sarebbe stata una lunga carrellata con tante voci famose che ci avrebbero portato la loro esperienza, il loro racconto, il loro contributo, e sono molto contento di dare il benvenuto a Gad Lerner. Ciao Gad. Ciao a voi, buonasera. Esame di maturità, dove ti riporta la mente? Intanto siete delle carogne a farlo proprio quest'anno, il collegamento con me, perché mi avete costretto a fare i conti, era il 1973, quindi 40 anni tondi. Festeggiamo, cifra tonda. No, noi festeggiamo il fatto che domani mattina in parallelo abbiamo l'ultimo esame orale di licenza media inferiore in famiglia. Ecco, le cose importanti. Parliamo un po' prima, ecco. Hai un ricordo, sei uno di quelli che ha sognato poi nel tempo l'esame di maturità o è stato così un passaggio facile? No, è stato piuttosto avventuroso perché erano anni di turbolenze politiche, come ben immaginate o ricorderete quelli coi capelli bianchi, ragion per cui io avevo perso un anno facendo politica, movimenti, assemblee, e avevo deciso di recuperarlo provando da privatista a fare il salto, sì. A provare a fare, ho fatto quindi la seconda liceo classico, diciamo il quarto anno in una classe normale del liceo Berset di Milano, un liceo classico, e poi gli ultimi 15 giorni mi ero tappato in una fattoria, una cascina di San Colombano al Lambo con degli altri amici a provare a dare l'accelerata. E mi andò bene, devo dire la verità, ho recuperato l'anno, ma la sera prima era la sera prima del tema, che era uno dei, diciamo, dei punti sui quali contavo per fronteggiare la scena muta che già sapevo avrei fatto su materie scientifiche, la fisica e la chimica in particolare, che oggi posso dirlo, non ho mai imparato in vita mia. Dopo 40 anni puoi finalmente fare outing. Gad, invece una domanda al giornalista. C'è un tema, c'è un argomento che domani ti piacerebbe vedere tra le tracce, tra i titoli del tema di attualità? Ce n'è tanti. Più di uno, naturalmente, ma credo che da questi ragazzi noi ci dobbiamo aspettare, non solo perché siamo su Radio 24, la riflessione eretica, nuova, che non tiene conto dei dogmi sull'economia, sulle regole. Loro sanno che delle regole che abbiamo dichiarato oggettive, indiscutibili, matematiche e quindi perfette, non hanno funzionato nell'applicazione della loro realtà e del loro futuro, quindi saranno loro a doversi reinventare una nuova economia. Grazie davvero, mi sembra un'ottima suggestione, Gad, in bocca al lupo allora per l'orale che hai in casa, perché insomma sostenetelo, okay? Grazie, ciao, buonanotte. Notte prima degli esami, e ogni esame di maturità si porta con sé anche una canzone con cui ognuno ricorda quel brano che l'accompagnava verso l'esame, che l'accompagnava nelle ore di studi. Visto che si parla di musica, visto che si parla di pezzi, di dischi, diamo il benvenuto a Mara Maionchi. Ciao Mara. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Tu l'hai, sì. Ce l'hai una canzone legata alla tua maturità? Ti ricordo. Sai che è passato talmente tanto tempo che devo dire non esatto. Devo anche essere molto sincera, io sono di una generazione, io poi ero in particolare un somaro serio, e allora ho fatto ragioneria, non sì. Ho fatto i licei e poi non ho fatto l'esame, sono andata a lavorare subito perché per me lavorare era fondamentale. Correva l'anno 59, per cui ragazzi voi eravate ancora tutti nel mondo dei sogni, e quindi ho preso questa decisione per cui non ho avuto questa emozione, l'ho avuta in compenso con le mie due figlie, che hanno fatto entrambe, una una maturità classica e l'altra ha fatto la maturità del liceo linguistico. E non ti è mai venuta la voglia o la tentazione di recuperare quell'esame, di andarlo? Devo esserti sincera, no, ho cercato di supplire alla mancanza degli studi così tradizionali con leggendo, cercando di imparare, di capire, di frequentare persone che ne sapessero assolutamente più di me, ma non ho avuto mai il desiderio di ritornare indietro. La mia era una generazione che usciva dalla guerra, il lavoro per me era fondamentale, il fatto di essere autonomi nell'impegno della vita, di età, mi piaceva molto di più, ma questo è stato una mia pecca e penso e mi auguro che nessuno mi ripeta. In casa mia nessuno si è ripetuto, spero che anche mio nipotino, che ha solo 2 anni, non si ripeta assolutamente. Ormai è talmente lontano il liceo della nonna che spero che lui invece faccia bene, perché aiuta molto. Certo. Mara, un'ultima domanda: tu per professione molte volte ti sei trovata anche nel ruolo di quella che doveva giudicare più che essere giudicata, e quindi sei un po' la parte della commissione. Che consigli dai ai ragazzi? C'è un modo per vendersi meglio o comunque ha senso vendersi, o bisogna essere non se stessi? Non ha senso vendersi, è meglio essere quello che si è e cercare invece di capire se il talento che uno può avere, uno lo capisce anche da solo se ha talento, ma non parlo solo della musica, voglio dire nella vita, nelle cose. No, io credo che non bisogna vendersi mai, bisogna solamente essere quello che si è, su questo sono credo fermamente. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, e a tutti quelli che domani iniziano questi esami. Sì. È una notte lunga. È una notte lunga, ma è una notte, speriamo, serena, perché se uno è preparato, vedi che riesce a superare brillantemente. Auguro un bocca al lupo a tutti i ragazzi. Il grazie e di tutti. I genitori dei ragazzi. Beh sì, perché ci sono anche loro coinvolti, come ben sai. Esatto. Certamente. Grazie davvero a Mara Maionchi. Ciao grazie Mara. A voi. Ciao. Grazie, buonasera. 824-0024, numero verde, se volete intervenire in diretta come ha fatto Chiara, che la prendiamo fra un attimo subito dopo la pubblicità. La notte prima degli esami. Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città, sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano. Notte prima degli esami, iniziano ad arrivare ovviamente i vostri messaggi. Radio24.it sul form che abbiamo predisposto. Eliaside, così si firma, dice: ho un mal di testa bestiale, sto passando la serata a forza di aspirine. No, tranquillizzati, cerca di riposare, cerca di dormire. Mentre un bel messaggio che è arrivato via sms al 349-238-6666 dice: sono un insegnante di informatica e domani per la prima volta farò la presidente di una commissione. Anche per me questa è la notte prima degli esami, anche se dall'altra parte. Ricordo ancora la mia maturità, era il 1982 e mentre io studiavo per gli esami l'Italia vinceva i mondiali. Un bocca in lupo a tutti i ragazzi da Lucia di Pordenone. Aspettiamo i vostri messaggi, invece le vostre chiamate all'824 0024 oppure l'hashtag è notte prima degli esami su Twitter. È con noi Chiara che ci ha chiamato dalla provincia di Lecce. Ciao Chiara. Ciao. Come stai? Sento già una voce un po' tremante. L'ansia da... È l'ansia da esame. Eh sì, c'è. Ma esattamente. Esatto. Ma arrivi forte, arrivi preparata a questo esame? All'avventura. Bella. Non ho nessuna idea. Bella, mi piace. L'avventura però è un bello spirito, perché vuol dire che comunque un po' ti butti. Com'è stata l'annata? Hai riportato buoni voti? Le simulazioni sono andate bene? O è stata un'avventura anche tutto l'anno scolastico? Tutto bene in tutte le materie, tranne in matematica e biologia. Le materie scientifiche proprio sono KO. Okay. Quindi domani invece per l'italiano vai tranquilla. Hai già scelto che prova farai? Suppongo attualità, saggio breve. Mm-hmm. Ma perché pensi che sia quello più semplice, quello più facile? Forse quello più intrigante. Quello più intrigante, vai. Avventura e quello più intrigante. Sono due parole belle, lo spirito è quello giusto. Chiara, in bocca al lupo e che sia una bella, bellissima notte prima degli esami, anche in nostra compagnia. In bocca al lupo. Grazie mille, credi. Ciao. E una notte prima degli esami, questo 2013, la sta vivendo anche una sportiva, è una ginasta, la conoscete molto bene perché è una delle protagoniste della serie di MTV Ginaste Vite Parallele, e in questa vita parallela rispetto appunto alla ginnastica c'è anche la realtà, e la realtà è fatta di scuola, la scuola è fatta di esame di Stato che domani mattina l'attende. Diamo il benvenuto a Carlotta Ferlito. Ciao Carlotta. Ciao. Cos'è questa vocina? Una come te non teme nulla. No, guarda, temo di più l'esame che la gara normale. immagino. Ma qual è il timore? Quello di avere un blocco all'ultimo momento? Quello di non aver studiato? Esatto. No, vabbè, diciamo che comunque da privatista, perché avendo fatto sempre scuola privata in questi anni, ho sempre sostenuto gli esami a fine anno, per cui anche quest'anno ho fatto i preesami prima di essere ammessa alla maturità, quindi diciamo che ho già ripassato tutto, sono già stata valutata su tutto il programma, per cui diciamo che sono abbastanza preparata, abbastanza tranquilla, però sai, comunque la tensione c'è. Immagino che... È la maturità vera e propria, però sto cercando di viverla nella maniera più tranquilla possibile, sto facendo il conto alla rovescia, per 15 giorni mancano a finire e vediamo. Ma questa parola maturità nella tua vita quante volte te la sei sentita dire da sportiva? Io sono diventata matura tra virgolette da piccolissima, perché da quando mi sono trasferita ho sempre vissuto da sola e ho dovuto affrontare i problemi lontano da casa e tutto, però nell'ambito scolastico sono un po' diversa. Uh-huh. E dando l'esame da privatista devi comunque portare anche tu la tesina, immagino, o no? Certo, semplicemente il fatto che devo fare i preesami è una cosa diversa, e che non conosco i professori interni e che quindi non mi hanno seguito durante l'anno scolastico. Uh-huh. E quindi per me saranno tutti come se fossero candidati esterni, quella è la cosa più brutta, però l'esame vero e proprio sarà esattamente come tutti gli altri. Speriamo siano spettatori di MTV, così almeno ti hanno visto, oppure alle Olimpiadi magari sei qualche fan. E la tesina su cosa l'hai preparata? La tesina sugli aspetti dell'influenza della psicanalisi sugli intellettuali del Novecento e sull'arte. Ah, quindi non una cosa semplice. No, ma perché ho fatto bene, Svevo la coscienza di Zeno, perché l'ho letto tutto il testo integrale perché era richiesto nel programma. Mi è piaciuto, allora inizio con Freud, mm-hmm. Da Freud vado su Italo Svevo, quindi la coscienza di Zeno alla psicanalisi però in senso fallimentare. Poi Joyce, l'inglese, con i Dubliners, e poi Schiele, della pittura espressionista del Novecento. E poi siamo le palette per darti il voto, quello per riportarti un po' così nel spirito olimpico. Beh, insomma, è un bel percorso. Cioè, ho visto proprio anche dall'altra parte del vetro Miriam e Vittoria fare la ola. Hanno detto: oh, ci piace, ci piace. Sì. C'è della sostanza, c'è del contenuto. Sì, Carlotta, sì. Non so se si può dire in bocca al lupo, vale? Sì, vale sì, ancora certo, come augurio. Meno male che me l'hai detto, crepi. Vai e divertiti anche. Avventura è la parola chiave che abbiamo scelto di adottare per questa serata. Avventura. E quindi che sia una bella avventura manca anche per poco, te. Manca poco. Manca dai. Pochissimo. Ciao Carlotta, grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Carlotta Ferlito, ginnasta e protagonista della serie di MTV. Adesso invece facciamo un bel salto perché abbiamo con noi una scrittrice, una delle più importanti, una delle più grandi scrittrici italiane. Diamo il benvenuto a Dacia Maraini. Buonasera Dacia. Buonasera, buonasera. Allora, l'esame di maturità, dove la riporta? Che suggestioni le suscita? Beh, tempi molto lontani veramente, però non felice, perché io non sono portata per gli esami. Io sono una studiosa, sono sempre stata una studiosa, però nel momento degli esami divento timida e afasica, quindi ho sofferto moltissimo con gli esami, non sono un buon esempio per gli esami. Quindi un'ottima studentessa, ma al momento dell'esame così un passo sì, indietro. Sì, mm-hmm. Sì, preferisco dare il meglio di me durante il tempo che non in 5 minuti, sento un po' la fretta, la capacità di giudicare una persona in poche battute, è sempre stata una cosa per me molto difficile, qualsiasi esame, non soltanto l'esame a scuola, insomma. Certo, ma l'esame di maturità in particolare lo ricorda come una tappa importante sì, della sua vita? Sì, importante ma anche molto umiliante, per esempio non so perché, ma è successa una cosa strana, che il professore mi ha detto: commenti questo passo della Divina Commedia, e mi ha messo in mano una Divina Commedia che letteralmente era grande come un ditale, era non so 2 centimetri per 2, ma io pensavo che fosse uno scherzo, invece no, lui voleva questo, soltanto che io nel mio nervosismo, nella mia timidezza, questo libro mi è schizzato dalle mani, poi mi sono messa per terra a cercarlo, non riuscivo a trovare, insomma alla fine ho dato una pessima rappresentazione di me stessa. Certo, però anche lui un po' sadico, perché mettermi sì. In mano un libretto che era talmente minuscolo, per fortuna ci vedevo bene, ma non riuscivo a tenerlo in mano tanto era piccolo, poi avevo le dita sudate, insomma ecco una situazione difficile che non mi è stata aiutata. Che suggerimento vuole dare ai ragazzi che domani avranno la prova d'italiano? Come si affronta quel foglio bianco? Guardi, il suggerimento di una che appunto ha sofferto molto e che non è che sia stata brava, però il suggerimento è quello di essere se stessi, di non pensare di dover dare chissà che cosa, ma di essere sinceri, di dire se uno non sa una cosa, la scriva, la dica che cosa gli fa venire in mente una, non so, un poeta, uno scrittore, adesso non so quali saranno i temi prescelti, senza vergognarsi di essere se stessi, anche nella propria ignoranza. Io credo che un giudice è ben disposto se una persona dichiara la propria ignoranza e magari tira fuori qualche altra cosa, se ha letto, se legge. Io per esempio ero un'attrice accanita, adesso purtroppo si legge di meno. Certo. Se potesse scegliere lei l'autore da commentare domani nella prova, chi sceglierebbe? Ma ho sentito parlare di Ungaretti, per esempio, uno scrittore che io amo molto, che è poco conosciuto, quindi secondo me andrebbe benissimo. Fra l'altro sono stata pochi giorni fa ad Alessandria in Egitto e ancora lì è molto presente, perché lui ha vissuto parecchi anni ad Alessandria, poi ha scritto delle poesie, insomma è uno scrittore italiano con delle radici lontane nel sud, che però poi ha pensato all'Italia, anche alla sua poesia sui fiumi, è un'idea già dell'Europa, di un'Europa unita. adesso non so, perché non so veramente cosa verrà fuori. Ah, io, non a si me può piacerebbe per esempio parlare di Ungaretti. Poi questo rapporto tra Ungaretti e l'Europa Unita è già una bellissima suggestione, quindi vero? Fate la vostra, vero, ragazzi, non si sa mai, nel caso uscisse Ungaretti è una pista di riflessione. Grazie davvero come sempre da Dacia Maraini per questa chiacchierata, buon lavoro, so che è in partenza. Grazie per la Germania. Sì, sono all'aeroporto. Comunque faccio gli auguri a tutti i ragazzi che cerchino di essere se stessi, è la cosa più bella del mondo, e credo che anche i giudici apprezzino essere se stessi anche con la propria ignoranza. Siate voi stessi, grazie Maraini. Mai copiare, non serve a niente, soltanto fare dei pasticci. Perfetto, grazie, buona serata. Arrivederci. Abbiamo saccheggiato un po' quella che è la top 10 dei pezzi che accompagnano la maturità e saranno un po' la colonna sonora di questa serata. Fra pochissimo con noi Roberto dalla provincia di Modena, che ha chiamato l'800 24 00 24. I vostri messaggi al 349 238 6666. Ma prima del traffico, un messaggio che è appena stato pubblicato sul nostro blog, sul sito radio24.it. Alberto che ci scrive: ero molto bravo in matematica, ma sbagliai completamente lo scritto nel secondo giorno dell'esame, pertanto non passai la soluzione alla mia ragazza strategicamente appostata dietro di me. Per questa ragione, all'uscita da scuola, lei mi mollò su due piedi dopo 3 anni che stavamo insieme. Capì di colpo la ragione per cui lei stava con me e non fu facile per me arrivare in fondo. Però, insomma, anche questo è segno di maturità. Il traffico poi è ancora qua con la diretta, la notte prima degli esami. La notte prima degli esami. Faccio le ore piccole da quando non ho te. Finalmente ho il tempo che mi serve per pensare soltanto a me. E anche se non rispondo più al telefono e l'ho detto ai miei amici e non ci credono, io sto bene da quando non ho te. I ricordi della vostra maturità, oppure l'ansia, la paura, il timore, o anche l'indifferenza, se state festeggiando. So che tanti ragazzi stanno così aspettando l'esame insieme con delle feste di classe. Siamo qua, 800 24 00 24, numero verde per intervenire, come ha fatto Roberto dalla provincia di Modena. Ciao Roberto. Sì, ciao, grazie, buonasera a tutti. Che ricordo hai del tuo esame? Che anno era intanto? Allora, l'anno era 85. Sì. E ti assicuro che fu un grande divertimento, perché non passò notte che non si seguiva in diretta Quelli della Notte con Renzo Agole. È vero. Ed era una cosa fantastica, ancora oggi è legato il mio ricordo a quello. E inoltre fu una vera e propria cosa sportiva, ecco. Se in altri interventi che ho sentito poco fa c'era l'avventura, io li definirei sportivo, nel senso che ognuno ha fatto il suo provino alla fine, cioè quel colloquio eccetera, però la preparazione era stata di squadra, cioè io e il gruppo di ragazzi della mia classe, che ancora oggi dopo tanti anni ci ritroviamo assieme, eravamo una cosa che si supportava uno con l'altro, e il fare anche tutte le cose che si usano per copiare era diventato un modo per creare degli handbook fatti a mano il giorno prima, che era un modo per imparare, cioè, certo. E il mio ricordo è comunque sicuramente una cosa che rifarei, cioè al di là della paura, ma quelle lì sono cose che passano, quando sei lì affronti, va, via, basta, cioè, non c'è mica niente da, da... E poi io, ecco, vabbè, sarà il mio carattere. Eh no, sarà il tuo carattere, ma facciamo, facciamo nostro il tuo suggerimento, questo animo sportivo, questo animo di spogliatoio, sei tutti lì, insomma, e ci si sorregge anche a vicenda con il giusto spirito. Massima solidarietà, siamo nella stessa barca e remiamo tutti dalla stessa parte. Vai, grazie davvero Roberto per il tuo ricordo, ciao, ciao, ciao, ciao. A tutti, ciao. Adesso invece andiamo da uno studente, anche lui un maturando, che però abbiamo convocato perché ci ha incuriosito molto la sua tesina, la tesina che è questo, questo lavoro, che è un po' il proprio biglietto da visita, è un qualcosa in cui ci si può sbizzarrire, che ti accompagna durante l'esame, dove puoi anche divergere, no? Prendi i contenuti, prendi quello che hai studiato, ma puoi aggiungere, puoi metterci del tuo. E diamo il benvenuto a Thomas De Martin, maturando dell'ISIS Pugliati di Sacile. Ciao Thomas. Buonasera. Buonasera, come stai? Tutto bene, grazie. Un po' agitato, ma tutto bene. Perché appunto il giorno della tesina, il giorno dell'esposizione è ancora lontano, tu come tutti gli altri, sì, domani. Il problema è domani che cominciano gli iscritti. Allora, è un ISIS che è un istituto statale che non mi ricordo. Io faccio l'indirizzo scientifico, però poi ci sono altri indirizzi, c'è cioè il sociopsico, ci sono anche le... Il, vabbè, le cioè, sociali, sì, sì, sì, come i vari indirizzi. E, sì, sì, sì. Hai paura? Stai vivendo bene questa serata? Sì, adesso sto dando le ultime ripassate, sto facendo un lavoro di ritocco sulle ultime cose. E, vabbè, sono agitato, ma vado ormai, quello che so. Benissimo. E sei così agitato che hai deciso che agli orali non ci andrai da solo, ma ti farai accompagnare da due mascotte, da due amici, da due colleghi. Praticamente porterai la prova del tuo studio all'esame. Perché hai deciso di presentarti davanti alla commissione con due insetti? Beh, intanto io sono sempre stato appassionato di animali fin da piccolo e poi volevo stupire un po' la commissione facendo qualcosa di diverso dal solito. E volevo proprio far toccare con mano l'argomento di cui parlavo, quindi il mimetismo. Ho portato insetto foglia e insetto stecco, infatti, che sono maestri del mimetismo. È un modo che userai anche tu per mimetizzarti, insomma. Sì, esatto, cercare di prendere tempo. Ascolta, ma quando hai proposto al tuo professore di riferimento la tua idea, come è stata accolta? Ah no, non gliel'ho detto, è stata una sorpresa. Ah sì, sarà una sorpresa in tutti i sensi. Ah sì? Cioè che abbiamo svelato in diretta adesso, no? Spero. Ma non tutti lo sapranno, speriamo, insomma. Va bene, non te li porti con te anche domani, vero, come portafortuna? No, domani no, restano a casa. Va bene, grazie Thomas, in bocca al lupo per questo esame, complimenti per la scelta, perché veramente ci piace quando qualcuno porta l'esame pezzettini di se stesso. Ciao, in bocca al lupo, ciao ciao. Grazie. E ci rituffiamo in rete, ci rituffiamo con Valeria Rosciani dentro alla redazione di studenti.it. Valeria, dal vostro punto di osservazione, dal vostro faro, cosa vedete? Eccoci, vediamo i maturandi pronti a svolgere il tema di attualità, o comunque sia il tema sempre e comunque. Ne abbiamo chiesto, sentendo l'idea della Maraini, che cosa farebbero se uscisse davvero Ungaretti, e loro ci hanno risposto: analisi del testo mai nella vita. Perché così è un po' la selezione naturale, un po' darwiniana anche la scelta della traccia, appunto, da... Ed effettivamente noi nel nostro tema avevamo messo Ungaretti tra i vari autori, insieme a Umberto Sabba, che non esce da tantissimo tempo. Ma comunque i ragazzi puntano tutto sul tema d'attualità, che anche secondo noi potrebbe riguardare l'economia, come ha già detto Lerner, oppure qualche anniversario di quest'anno, tra cui la strage di Nassiriya, oppure l'omicidio di JF Kennedy, o magari i 300 anni dalla nascita di Diderot. Okay. E a proposito di centenari importanti, quest'anno era il 150° di D'Annunzio, che anche è tra i papabilissimi alla prima prova. È vero, perché comunque si va a saccheggiare Wikipedia, si vanno a vedere tutte quelle che sono le date, le coincidenze, è un po' come anche, no, è un terno all'otto, ma tutta questa fatica paga, cioè nel senso, ha senso andare a cercare di cogliere in anticipo il titolo? Boh, forse sì, è un po' un gioco, è uno sport anche questo. Ma noi su studenti consigliamo sempre di prendere il tema così: fidarsi è bene, non fidarsi significa comunque esercitarsi, Quindi se io prendo un tototema con 5 argomenti e riesco a svolgerli tutti, vuol dire che comunque il saggio breve lo so fare, o esatto, so fare l'articolo di giornale. Infatti. Ed è proprio questa sicurezza che gli studenti devono portare con sé all'esame per poter fare una buona prova. Perfetto, un'ottima dritta studenti.it, ricordiamo se volete anche voi partecipare al forum, al confronto, a questo sostegno collettivo, perché appunto l'esame si va a fare tutti insieme, si è in 500.000. Fra pochissimo Valeria ancora con voi, adesso invece andiamo a Manetta da Guido Meda, ciao Guido! Ciao Federico! Ecco, senti che bella voce calda, ti piacerebbe commentare in diretta un esame di maturità? Cioè vorresti essere là tra i ragazzi e raccontare? Sì, mi piacerebbe un sacco, una bella idea, stavo pensandoci adesso, è stato quello lì è proprio un cancello su un altro modo di vivere, commentarlo per spiegare a casa chi la deve fare ancora, che cosa comporta la maturità, sarebbe bello, bello, bello, uh-huh. Non dovrei nemmeno prepararmi stavolta, insomma, è vita vissuta, per cui saprei cosa dire. Tra l'altro prendo spunto dal tuo libro appena uscito, Il miglior tempo, giusto il Grazie. Titolo, e un po' l'esame di maturità fa parte di quel miglior tempo, di quel bel tempo, di quel tempo che uno comunque vorrebbe rivivere alla fine mille volte nella propria vita, o no? Diciamo che secondo me c'è di mezzo un cancello, che è l'esame della maturità, è meglio stare o di qua o di là, proprio infilzati sul cancello, no, io devo essere sincero, cioè la notte prima degli esami è la notte prima degli esami, è una rottura di palle, non c'è niente da fare, mi vorrei essere di conforto a chi deve fare l'esame, però insomma è stato bello fino a una settimana fa, sarà bellissimo fra una settimana, però capisco che stanotte possa essere un problemino. Io sono tra quelli, adesso non so se gli ospiti che hanno preceduto prima l'hanno detto, è un grande classico che ancora ora se la sognano. No, davvero? Davvero, mi capita, ma più che altro mi sogno che arriva uno e mi dice che non l'ho fatta. È peggio, esatto. Ed è devastante, poi alla fine è il tema del film, no? Immaturi. Immaturi, esatto. Poi, forse non era originalissimo come spunto, però è vero, perché secondo me torna. Ma io devo dire una cosa però, che la ricordo come la prima vera ingiustizia subita dalle istituzioni della mia vita, lo dico, io rispetto per le istituzioni, però quella volta lì, no? Perché il 38 io non me lo meritavo, cioè io ero uno che si era qualificato per il 50, capito? Ah, quindi sei stato così un po' messo nelle file? Però sono stato messo nelle file posteriori, esatto. sì, ho sbagliato decisamente la prima curva, perché ovviamente avendo scelto filosofia come seconda materia e non avendo molta voglia di studiare, io ero uno di quelli che campavano di rendita, non so nemmeno perché, mi ero preparato, quando sono arrivato a studiare Kant, sono arrivato un po' lungo a studiare Kant, tipo la sera prima, ho detto critica della ragion pura, critica della ragion pratica, secondo me chiede la pratica e la pura non la chiede. Mi sono seduto e la prima domanda è stata la critica della ragion pura. Guido, stai lì un attimo e ti chiediamo veramente un paio di minuti di pazienza, ascoltiamo insieme il GR e poi ripartiamo con te, perché ho una richiesta particolare da farti. A fra poco. La notte prima degli esami. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on, on, on, on. We are the champions. Chissà in quanti hanno messo questo pezzo nel proprio iPod per svegliarsi domattina prima dell'esame, ancora in diretta. Buonasera da Federico Taddia, questa è la notte prima degli esami, notte che passerei qui a leggere i vostri messaggi, perché sono veramente un mondo, sul nostro forum radio24.it oppure al 349-238-6666, i vostri sms come quella di Gabriella che ci dice: cena della maturità era il 68, due ricordi, il prof di greco che mangiava come un comune mortale, vabbè, questo è così, e il compagno che mi piaceva in semisilenzio, ballava un lento a polipo con una compagna che avrebbe poi sposato. Questo è quello che ci dice Gabriella, mentre via Twitter l'hashtag è notte prima degli esami. C'è Luca Lombroso, il nostro meteorologo, che dice fu un'estate rovente 30 anni fa, era il 1983, un'estate rovente da record, probabilmente un segno del mio futuro. Tanti messaggi anche all'824-0024 per le vostre chiamate in diretta. Vi ricordiamo uno speciale in collaborazione con studenti.it e con noi in collegamento Guido Meda. Guido, grazie per la pazienza. È che stavo voglio riportare un attimo al tuo libro, Il miglior tempo, dove di fatto si parla di passione, e questa un po' è una notte di passione, questa parola che ha due accezioni così simili ma così lontane, no? Mi piaceva veramente creare una connessione un po' ardita, lo so, ma mi piaceva. Va bene, io la apprezzo, e durante il giornale radio e durante la pubblicità ripensavo proprio alla sera prima e alla mattina del risveglio. Prima ho detto è un cancello, la maturità è una notte di sofferenza. In realtà poi ripensavo con nostalgia in effetti a quello che è stato quel giorno, perché la mia fidanzatina che mi venne a prendere col motorino alle 7 della mattina, in effetti è un ricordo che non posso cancellare. No. Lei l'avrebbe fatto l'anno dopo l'esame, mi portò, era l'85 quello del mio esame di maturità, mi portò a scuola, vide entrare il famoso membro interno che era la professoressa Clerici di italiano, sono convinto ancora oggi che forse fu un po' quella che mi fece pagare il fatto di avere fatto della politica quell'anno. Uh-huh. Nell'85 poi è anche curioso questo, cosa cavolo rivendicavamo noi, no? Ci sentivamo un po' dei sessantottini, volevamo rilanciare un movimento di protesta nei confronti di qualcosa, quando in realtà non ci mancava assolutamente niente, perché erano anni buoni, poi sì, dopo sì. Forse si scoprì che in realtà dietro c'era qualcosa che non andava, ma in quel momento lì stavamo tutti bene, alla fine protestavamo perché volevamo fare le vacanze di Pasqua lunghe un mese, allora picchetti su picchetti, e forse è vero che un po' pagai il fatto di essere stato col megafono sulle scale del Beccaria, liceo classico milanese, ogni tanto a dire di stare fuori, di scioperare, perché non ci andava come venivamo trattati. E c'era un professore che era Roberto Vecchioni, che regolarmente mi prendeva per un orecchio e mi diceva ma vai dentro a studiare, stupido. E l'ho rivisto in uno studio di registrazione 2 settimane fa. Adesso ci diamo del tu, che è una cosa stranissima, no? Certo. Abbiamo ricordato quei momenti, e anche lui mi ricorda che confessava che insomma mi disse voi avete fatto un liceo in un periodo favoloso, noi quando l'ho fatto io, quando ho fatto io la maturità era una cosa seria, per cui ognuno la ricorda come una cosa seria. È anche il suo bello. Guido, mi chiedono se come augurio puoi farci un tutti in piedi sul divano, proprio sentito, passionale, proprio da notte prima degli esami. Allora, non lo faccio mai perché è un po' come sentirsi un jukebox, no, in questo caso. Però è troppo bello pensare con dolcezza ai giovani e pensare che insomma ci possa essere un po' di entusiasmo in quello che effettivamente è il loro miglior tempo, e allora lo faccio volentieri. Tutti in piedi sul divano domattina, sveglia presto e poi in classe a fare l'esame, un 60, no, non si usa più il 60, è poco adesso. 100 c'è, che non vuol dire niente, ma è quello che auguro a tutti. Se per caso poi portate a casa un 60, chi se ne frega, esatto. La vita è bella lo stesso. E fatevi la suoneria per il cellulare con questo bel augurio di Guido Meda. Sveglia. Ciao Guido, grazie, complimenti. Grazie Federico, in bocca al lupo. Complimenti a te, in bocca al lupo a tutti. Grazie. Un abbraccio, buonanotte, grazie. Ciao. In questa notte, prima degli esami, volevamo anche il suo in bocca al lupo, quindi l'abbiamo invitata ed è un vero piacere avere qua con noi il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carozza. Buonasera ministro. Buonasera. L'abbiamo invitata per un in bocca al lupo ai maturandi. Prima però la farei un po' viaggiare nel tempo, tornerei alla sua maturità. Che ricordo ha? Ma io ho un ottimo ricordo, ero molto nervosa la sera prima e anche la mattina della prima prova, poi però è stato un crescendo e la mia migliore prestazione è stata all'orale. Ah sì, ma un po' di nervosismo causato dall'ansia da prestazione. L'ansia, sì, è un esame importante, è normale avere un po' d'ansia, fa parte del gioco. Uh-huh. Ed è ancora un esame importante secondo lei, nel senso è comunque una tappa fondamentale nel percorso formativo di un ragazzo? Sicuramente è una tappa fondamentale perché è un po' la sintesi del percorso scolastico ed è anche un po' un allenamento per quelli che saranno gli esami futuri, quindi è importante, insomma, non a caso si chiama maturità, anche se gli cambiamo nome, gli diamo nomi più burocratici, però è sempre la maturità. Mm-hmm. Sa che sono arrivate tante domande per lei, gliene pongo solo una che è la curiosità degli studenti. Lei le conosce già le tracce, o comunque ci ha messo naso o non le ha neanche viste? No, le ho viste. Okay. Le ho viste come? Ci posso dire? Non me le ricordo più. Le sono piaciute? Ma sì, mi sono piaciute, non me le ricordo più, non posso dire nulla. Perfetto. Domani le riscoprirò. Non le è venuto il panico, insomma, a vedere i titoli, quindi vuol dire che sono comunque fattibili. Ho contribuito a scegliere, diciamo così. Benissimo. E ministro, qual è l'augurio che vuol far arrivare in bocca al lupo a tutti gli studenti? Allora, in bocca al lupo, come ho detto ai miei figli, come hanno detto a tanti figli di amici e miei nipoti, quindi in bocca al lupo, mi raccomando. Dormite bene, cercate di dormire almeno qualche ora, quindi non vi lasciate prendere dall'ansia, e domani rileggete tante volte le tracce prima di scegliere quella che vi sembra più adatta a voi. Sono sicura che è una prova importante, ma bisogna superarla. L'hanno superata milioni di studenti e quindi la supererete anche voi. Grazie davvero, ministro. Insomma, domani sarà una giornata tosta anche per voi, perché comunque è una prova di maturità anche per tutto il sistema scolastico. Quindi in bocca al lupo. È una prova, va bene, è una prova anche per noi. Va bene, crepi il lupo anche da parte nostra. Grazie davvero. In bocca al lupo, ragazzi. Arrivederci. Incognita. Disagio. Paura. Copiare. Strippo. Fine. Liberazione. Risata. Fine. L'orale. Critica. Gioco di squadra. Angoscia. Crescita. Inutile. E che c***o. Però. Panico. Stress. Liberazione. Novità. 60 e stop. Scialla. 100. Una tragedia. Che stress. Bah. Angoscia. Vediamo nel culo. Una sfida. Stress psicologico. Sono le parole della maturità raccolte, montate dalla redazione di studenti.it, con queste parole che racchiudono quello che è il succo, quelle che sono le sensazioni, quelle che sono così le emozioni legate alla maturità. Andiamo da una maturanda, si chiama Valeria Franchetto, l'abbiamo invitata per un motivo molto particolare. Ciao Valeria. Ciao. Ciao. Maturanda del liceo scientifico Gramsci di Ivrea, so che ti abbiamo rubato anche un quarto d'ora di sonno perché avevi previsto di andare a letto un po' prima, vero? Sì, dato che domani mattina si sveglia prima a fare colazione e poi dopo maturità. Ah, hai l'appuntamento con le amiche? Vi trovate? Sì. Appuntamento di classe. A tutti insieme? La colazione prima del... Come l'hanno chiamato i miei compagni, la colazione prima della fine. Ho capito. Bella. L'ultima colazione insieme. Perché di fatto l'esame di maturità comunque è anche un po'... momento di distacco, perché sono gli ultimi giorni che si fa quel tratto di strada, gli ultimi giorni che si entra in quel portone, gli ultimi giorni che ci si incontra con gli amici, c'è anche questa parte qua. Però Valeria, ti abbiamo invitata perché tu hai scritto un appello ai tuoi coetanei. Tu sei giovanissima, hai 19 anni, 18, 19, quanti anni hai? 19? Sì, 19. 19. E sei una neo eletta consigliera comunale nel tuo comune, credo per il PD, se non erro. Sì. Giusto? E quindi ti sei trovata nel giro di un mese a diventare sia consigliere comunale sia ad affrontare la maturità. Stai diventando grande? Sì, no, nel senso, le emozioni sono davvero tante tutte assieme, e adesso dopo l'insediamento in consiglio comunale dire vado a parlare davanti ai miei professori sembra quasi una bazzecola, poi là ci sarà comunque. Mm-hmm. Però da un certo punto di vista sono più tranquilla per la maturità che per il resto. Sì, questo ti dà sicurezza. Tu hai scritto un appello ai tuoi coetanei, cosa hai chiesto a loro? Cosa volevi comunicare? Qual era così un po'... volevi risvegliarli, questo mi sembra il sottotesto di quello che hai detto. Sì, più che un appello in qualche modo era il mio lasciare qualcosa a tutti quelli che sono passati al liceo, chi non ha fatto il liceo ma ha fatto comunque una superiore, e il culmine di un passaggio che magari possa servire anche ai posteri, come per dire ragazzi non vi preoccupate, le passate ci saranno, se non le avete ora le avrete dopo, vi faranno crescere, però cercate di non avere gli occhi federati di salame, così come si vuol dire. Mm-hmm. Insomma, mi sembra un ottimo invito. Sì, mi sembra un ottimo invito, nel senso puntuale quale? No, che tipo, in qualche modo auguro a tutti di trovare un punto di rottura, ovvero un qualcosa che ti faccia dire indegnati, e da quel momento in poi cambia le cose, ma cambiano veramente, non fermarti delle parole. E sembrerà stupido, ma per quanto la scuola italiana sia disastrata, l'unico modo per cambiare qualcosa è partire dalla scuola. Impegnarsi piuttosto, magari perdere un sabato sera una volta ogni tanto, ma mettersi lì e studiare quello che ci interessa, quello che può servire effettivamente a attivare la mente, mettersi a pensare. Mm-hmm. E credo che questo sia anche, insomma, racchiuda anche un po' il tuo pensiero politico, quindi darsi da fare, mettersi in gioco e partire da lì. Sei giovane, sai il valore della cultura, sai il valore della scuola e sai che cambiando la scuola si possono cambiare le generazioni, si possono cambiare le città, si possono cambiare i paesi e le nazioni. Grazie davvero Valeria, in bocca al lupo per domani, non che sia una passeggiata, perché non deve essere una passeggiata, deve essere un'avventura, è quello che stiamo ripetendo questa sera, ma penso che tu abbia il giusto spirito per affrontare alla grande la maturità. Ciao, grazie, buonanotte. Ciao, grazie mille. Dormi, ciao, ciao, ciao. Adesso invece abbiamo con noi una... sai, si parla tanto di mangiare, si parla tanto di cibo anche, legato all'esame di maturità, è uno dei grandi tormentoni. Infatti diamo il benvenuto a Benedetta Parodi. Ciao Benedetta. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Tra l'altro ti conosciamo appunto per le tue capacità culinarie, i libri in televisione, ma esatto. Adesso hai appena pubblicato, ti sei buttata sul fantasy. Sulla narrativa, sì, narrativa. Anche sulla narrativa, esatto. Quindi questa saga per bambini, ma anche per adulti, perché le cose che funzionano per bambini poi piacciono anche agli adulti, si intitola, esatto, Le fate a metà e il segreto, il di, segreto Arla. Di Arla. Sì, è una storia fantasy in cui le fate a metà sono due ragazzine che acquisiscono questi poteri di fata solo quando si tengono per mano, è per questo che sono fate a metà, sono due gemelle, ma il loro potere deriva poi dalla loro unione, no? Sono un po' le mie bambine ed è una storia fantasy piena di avventura, di magia, c'è anche un po' di cucina perché ci ho messo un po' tutte le cose che mi piacciono, no? È anche un po' autobiografico e è un romanzo che io amo molto, che avrà un seguito perché ne ho già scritti tre e questo è il primo. Fate un menù completo. Esatto. Un menù completo dall'antipasto al dolce. Benedetta, torniamo invece al tuo, sì, esame di maturità, che ricordi hai? Mamma mia. Ma guarda, mi sono dovuta impegnare oggi pomeriggio, ho detto ma vediamo di scavare un po' nei miei ricordi. Avevi rimosso? Avevo rimosso, mamma mia. No, beh, ho proprio pensato in realtà a come magari alla mancanza di internet, di tutte queste nuove tecnologie ci avessero portato soltanto a fare delle gran telefonate, perché poi c'era tutto il tam tam di capire qual era il tema, no? Il tema le tracce dei temi del giorno successivo. Io ho fatto la maturità classica, no? E allora quale sarebbe stato il tema d'italiano, e ho passato la sera, io puntavo sulla letteratura perché era sicuramente l'argomento che mi interessava di più, quindi a ripassare tutte le possibili tracce che poi naturalmente nessuno ha azzeccato, no? Certo. Cioè, esatto, però devo dire è stata una serata abbastanza tranquilla, a me faceva molto più paura l'orale, io sui temi, sullo scritto ero più serena, il mio grande terrore era arrivare in ritardo, sai che quando sogni quelle cose di non arrivare in tempo agli esami o alla maturità, e la notte prima è veramente quella paura, ho impostato la sveglia, l'ho guardata 100 volte, sono arrivata mezz'ora prima, questa era la grande paura. Insomma, un bel ricordo. Avresti un piatto da consigliare ai maturandi? Perché prende anche la fame, sì. Non c'è niente da fare, lo stomaco... Ma secondo me bisogna mangiare sicuramente il carboidrato che ti rilassa, ti riempie, ti mette in pace col mondo, una bella pasta col pomodoro, secondo me è la cosa giusta prima degli esami, e qualche dolcetto, però anche colazione, anche se secondo me la mattina cioè lo stomaco è sicuramente strachiuso, però una colazioncina ci vuole prima di affrontare l'esame. Infatti appunto come la colazione di classe che abbiamo sentito prima, che hanno organizzato questi ragazzi per avvicinarsi tutti insieme, esatto, alla prova d'italiano. Grazie davvero a Benedetta Parodi, complimenti per il libro. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti quelli che danno l'esame domani. Grazie. E adesso due messaggi che sono arrivati simultaneamente. E ci ricordano che l'esame di maturità è quella bella esperienza che vivi quando hai 18 o 19 anni, ma non è detto, la puoi vivere anche quando sei un po' più grandicello, come ci scrive Massimo, che dice: la tensione si fa sentire anche da noi delle scuole serali di Giarre in provincia di Catania, mentre ci ha scritto appunto al 349-238-6666, sul nostro sito radio24.it. Luciano ci dice: che dire, è stata un'esperienza unica. Ho 47 anni e ho fatto gli esami di Stato nel 2007 insieme alla mia classe, un gruppo di ragazzi scalmanati, ma pur sempre i miei compagni di classe, quei compagni di classe che non avevo mai avuto. Ho condiviso con loro quasi tutti i giorni di lezione, le gioie e i dolori. Un in bocca al lupo a tutti voi che domani affronterete l'esame. Questi sono i vostri messaggi, aspettiamo anche le vostre chiamate in diretta all'800 24 00 24. Adesso un altro ospite, lo abbiamo visto in televisione ultimamente, nella, così, in veste non tanto di giudice ma di coach, di allenatore, era uno dei protagonisti di The Voice. Diamo il benvenuto a Piero Pelù. Ciao Piero. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buona serata. Guarda, buona serata. Allora Piero, come eri le ore prima dell'esame? Ero estremamente nervoso. Estremamente nervoso, ma questo era anche un po' una conseguenza, nel senso che i prof, io ti sto parlando ormai di qualche milione di anni fa, cioè era l'anno 1980, correva l'anno. Era in bianco e nero praticamente il tuo esame. Eravamo ancora in bianco e nero con Rai 1 e Rai 2 e basta. No, c'erano già le TV private, è vero. Però insomma, i prof, loro sì, mi giudicavano molto, ma mi giudicavano male, perché mi giudicavano dall'aspetto. Mm-hmm. Io in quegli anni ero già un punk, e vedere entrare in classe uno con i capelli tutti ritti in testa, vestito di nero, per loro era una cosa estremamente destabilizzante. Quindi, nonostante che io facessi dei buoni compiti, per dire a matematica, anche se facevo il classico, facevo dei compiti praticamente perfetti, la prof, che si chiamava Zappa, diceva: vabbè, tanto tu l'hai copiato, quindi ti do tra il 5,5 e il 6-. Ecco, queste cose erano quelle cose che a un ragazzo lo mandavano nei pazzi, come si dice a Firenze, cioè il fatto di non veder riconosciuti i propri meriti era una cosa tremenda, e quindi questo contribuì ad aumentare il mio nervosismo il giorno della maturità. Ecco, e il giorno della maturità ti sei un po' ripulito, tra virgolette, sei arrivato con un look diverso dal solito? O assolutamente sei... no. Mi presentai con un paio di scarpe verdi alla maturità, uh-huh, un paio di Superga dipinte a mano di verde con lo spray, e capelli dritti in testa e pantaloni. Insomma, mi presentai come mi andava di presentarmi, ecco, anche in maniera un po' provocatoria, però a quel punto era chiaro che era diventato, io sto parlando dell'orale, l'orale, certo, l'orale, che era un po' la prova più stressante, perché poi bisognava portare tre materie, insomma, e la mia emozione mi giocò un ruolo, un peso abbastanza importante, perché quando si è così emotivi si sa che la bocca dello stomaco si chiude, poi in certi momenti invece si riapre anche, e quindi qualche secondo prima avevo appena finito di passare il mio compagno di classe precedente, ebbe una insostenibile e intrattenibile, sì, voglia di vomitare. Mm-hmm. Ero nella classe, mi stavano per chiamare, dissi: scusate un attimo. Andai in bagno, feci questo gesto estremamente punk, mi liberai delle mie viscere, dopodiché entrai con una leggerezza estrema a fare il mio esame, e devo dire che andò bene, perché mi lasciai andare, ecco. Certo, ormai era... Il momento lì ero... Ti eri liberato di qualsiasi... Mi ero estremamente liberato, blocco, di tutti i diavoli che c'avevo dentro. Okay. E feci un figurone a leggere Dante, ecco, mi ricordo questa cosa qui. Chiaramente il paradiso, che io non ho mai amato molto, sono più per l'inferno dantesco, però il paradiso proprio non mi aveva preso granché, forse anche la prof non era riuscita a farmelo interessare più di tanto, ma insomma tutta questa spiritualità a 18 anni non mi interessava molto, ero molto concreto, estremamente concreto, poi ascoltavo i Black Sabbath, quindi insomma, mm-hmm, Black Sabbath, i Clash, i Sex Pistols, quindi ero più infernale che non paradisiaco in quegli anni. Certo. Insomma, comunque feci questa lettura ispiratissima, senza capire nemmeno granché di quello che effettivamente stavo leggendo, però mi ricordo che i prof dissero: wow, che bella lettura, bravo, molto ispirato, si vede che c'è un grande trasporto. Mm-hmm. E quindi non mi fecero poi tante domande specifiche. Piero, quelle scarpe verdi verniciate a mano le hai tenute in un qualche scatolone? No. Le scarpe verdi mi furono divelte, no, che strappate dai piedi quando mi tuffai dal palco qualche mese dopo a uno dei primi concerti dell'Itfiba. Ok, ci piace questa immagine, rimaniamo con questo ricordo. Grazie davvero a Piero Pelù per essere stato con noi in questa nottata. Tra l'altro un'estate con tantissime date, tanti festival, si parte il 30 giugno al Sogliano Estate Rock Festival, Sogliano Rubicone e poi via di date in date fino a Cagliari il 3 agosto. Buona estate! Sì. Ciao ragazzi, buona estate a tutti e mi raccomando, respirate profondamente prima dell'esame e siate voi stessi, che spaccate! Vai! Ciao cari! Giungla, giungla, che vita assurda, sempre correre o farmi mangiare, anche oggi per i predatori sarà una giornata di festa, qui l'ABC del quotidiano cambia sempre le sue regole, sopravvivere mi metti in sarsi tra mille trabocchetti e barcollo. I vostri messaggi anche via Twitter, l'hashtag notte prima degli esami. Francesca Casani che ci scrive la sua maturità, ce la racconta, dice: in terrazza a leggere articoli su Giovanni Paolo II, era morto quell'anno e la traccia era sicura, infatti non uscì. Tra l'altro quest'anno i due papi sono gettonatissimi anche loro nella gara del Toto Tema. Ci fermiamo un attimo di pubblicità, poi ancora qua con la nostra diretta. La notte prima degli esami. Se parli male, menti. Se parli bene, menti. Lo fai da tempo, ormai ci ho fatto l'abitudine. Non fare più commenti, non voglio chiari, menti. Potresti solo peggiorare il quadro clinico. Non c'è modo che io possa accettare questo modo di amare, prevalentemente ascetico. Siamo come carne che è andata male a forza di sorvolare sulle nostre falsità. Ma nonostante tutto, io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Va tutto bene, va tutto bene, nonostante tutto, domani c'è l'esame, l'ho scritto, inizia questo periodo un po' di tensione, lo sappiamo, però nonostante tutto va tutto bene. Questo ci canta Antonio Maggio, e Antonio Maggio è qua con noi. Ciao Antonio. Eccoci, buonasera a tutti, ciao. Vincitore... Come state? Noi molto bene, tu? Bene, bene, bene, grazie. Vincitore di Sanremo Giovani... Stasera sarà un po' più in tensione, diciamo. Tu quanti anni hai? Io ne ho 26. Ok, quindi se mi hai dato l'esame un 6-7 anni fa, che ricordo ti porti? Ricordo praticamente nulla, zero, perché ho dei seri di problemi di memoria, per cui... Ricordo i 5 anni del liceo, i 5 anni meravigliosi, poi andavo al magistrale, quindi nell'istituto diciamo c'era una netta maggioranza femminile, quindi figurati, insomma, con che piacere andavo io a scuola tutte le mattine. Immagino. Ma gli esami in realtà ricordo, a parte il voto finale, ricordo ben poco, mi ricordo soltanto come giusto normale che sia, insomma, la tensione della notte prima degli esami che stanno vivendo tanti ragazzi, tanti studenti oggi, ma poi insomma dopo dopo la prima prova c'è uno sblocco mentale che fa affrontare tutto con più leggerezza, sicuramente. Quindi diciamo il più. Aspetta, che c'è uno che non deve fare gli esami, che sta in moto e sta facendo un casino. Hai sentito? Sì. Diciamo più lo sblocco mentale dopo della prima prova, poi le altre si fanno con più consapevolezza di quello che si va a fare, insomma. Quindi ma guarda, esatto, la tua voce è molto rilassata, molto tranquilla, credo che sia veramente chiaro. Questo è un effetto positivo, sai, su chi ti sta poi come canto io nella mia canzone: nonostante tutto va tutto bene, ma andiamo, affrontiamo questi esami domani nel migliore dei modi. Poi ci sarà un'estate di divertimento, di viaggi, premio, vacanze, quindi se si pensa a quello che si farà post esami, magari si affrontano con più serenità. È vero, mi sembra un'ottima dritta questa. Grazie davvero ad Antonio Maggio, in bocca al lupo anche a te per il tuo nuovo pezzo, che sia un'estate ricca di successi. Ciao Antonio, grazie. Grazie, ciao. E adesso ancora una maturanda. Elena Maturanda del Liceo Classico Vivona di Roma scrive per il sito yallaitalia.it, che è un po' il portale di riferimento per gli italiani di seconda generazione, il blog delle seconde generazioni. Diamo il benvenuto a Monica Waheb. Monica, ho pronunciato bene il cognome? Sì, grazie. Giusto. Ciao Monica. Ciao. Tu hai letto un articolo molto bello, perché era una sorta di parallelismo anche sulla maturità italiana e quella egiziana, sì. O meglio, sul valore che si dà a questo momento. Con che spirito ti stai preparando all'esame? Con che spirito ti sei avvicinata? Sto realizzando adesso, più che altro. Un'ora fa ho realizzato che domani iniziano gli esami, quindi... Meglio tardi che mai, tranquillo. Sì. Beh, questo no. È buono, vuol dire che comunque non hai caricato di troppe ansie questo momento, questa tappa. Il giusto, diciamo, ma io sono così, cioè non è che realizzo sempre le cose dopo, quindi non... Hai usato la maturità appunto per fare questa sorta di confronto. Sì. Come mai? Cosa hai letto nell'esame di maturità? Allora, perché più che altro è proprio il metodo di insegnamento lì che è diverso. Sì. Cioè, lì c'è proprio l'ansia della maturità, perché bisogna fare un determinato punteggio per riuscire poi a entrare nell'università, comunque la facoltà che si vuole. Quindi lì è proprio diverso. Poi, per esempio, è tutto scritto, non ci sono colloqui orali, ci sono molti più scritti, sono 2 anni invece che uno, poi credo che sia cambiato, però fino a quest'anno erano 2 anni di maturità invece che uno, quindi è proprio diverso il metodo di insegnamento. Poi l'esame di maturità lì è proprio il momento in cui, cioè, è quello proprio che tutti aspettano, quindi è quello un po' più caricato, forse anche più di quanto venga caricato qui, cioè qui è più anche una tappa di passaggio, no? Anche un po' psicologica, si passa dall'infanzia quasi, dall'adolescenza, e poi si diventa adulti. Quindi questo esame di maturità qui in Italia, o meglio come lo stai vivendo tu, non rappresenta solo una tappa scolastica, è comunque anche una tappa del tuo percorso personale? Sì, certo. Adesso l'università, la vita un po'... vera. Ok, quindi è proprio una porta che si aprirà e via verso la vita vera. Mi sembra una bellissima immagine. In bocca al lupo per domani. Hai già deciso il look? Hai già deciso che ora ti sveglierai? Sai già cosa mangerai, colazione? O... Non so se mangerò colazione, più che altro, però va bene. Va bene, un pochino sì, dai. Che sì. Allora, tutti consigliano di farlo, quindi ci accodiamo anche noi a questo consiglio collettivo. Ciao Monica, in bocca al lupo. Crepi, ciao. Ciao. E prendiamo spunto proprio dalle parole di Monica per fare un attimo di riflessione su questo momento. Noi questa sera stiamo sdrammatizzandolo, stiamo così raccontandolo, stiamo rievocando tra i ricordi e le ansie, però è una tappa, è una di quelle cose dove veramente tutti hanno un ricordo, hanno un pensiero, hanno un aneddoto, hanno un odore, hanno un'immagine, e quindi è comunque un rito, e questo rito lo era 40 anni fa e lo è tuttora, e volevamo quindi appunto capire perché è un rito e se si può ancora definire un rito di passaggio. Lo facciamo con l'antropologo della contemporaneità, questo è quello che insegna all'Università degli Studi Suor Orsola, ben in casa di Napoli, il professor Marino Gnola. Ciao Marino. Ciao. Ciao. Con Marina abbiamo fatto un bellissimo viaggio a bordo di Nautilus su Rai Scuola, proprio per andare a vedere quelli che sono anche gli aspetti personali, antropologici, legati al costume. La maturità è ancora una tappa fondante, una tappa che ti cambia qualcosa dentro, Marino? Assolutamente sì, è un momento in cui si viene pesati letteralmente, stimati, valutati, ma pesati proprio, mi sembra la parola giusta. Non a caso poi l'etimologia di esame, da exame in latino, ha a che fare proprio con l'ago della bilancia, quindi è un modo in cui era un modo per soppesare, e come succede appunto in tutti i rituali di iniziazione, quelli che nella maggior parte delle società segnano l'ingresso degli adolescenti nel mondo dei grandi. Ed è esattamente il caso della nostra maturità, che resta l'esame più temuto dagli italiani, tant'è vero che chi continua a sognarlo anche dopo. Ma proprio perché, come diceva prima Monica, alla quale peraltro consiglio di far colazione, che la maturità non è una semplice verifica scolastica, ma, come dice la parola stessa, è un test d'ingresso nella vita adulta. Mm-hmm. È una prova iniziatica, un rito di passaggio che ogni anno impegna una classe d'età, un'intera generazione, solo che con penne e computer al posto di archi e frecce, come invece succede nelle società. In altre società, come succedeva fra gli indiani d'America, dove si veniva appesi a un palo, ed era un rito molto cruento, bisognava dimostrare forza, coraggio, capacità di sopportare il dolore, proprio per mostrare di essere adatti ad entrare nella vita adulta. In ogni caso si tratta di esperienze che segnano gli individui per sempre, li cambiano nella mente e nel corpo. Marino, ma può anche andare male l'esame di maturità, o non verrà poi mai più data una seconda possibilità? Anche se devo dire che statisticamente non è poi frequentissimo, almeno una volta, anche perché spesso succede una cosa: l'esame di maturità attiva quella attitudine performativa che poi dorme al fondo di molti italiani, mm-hmm, e che viene fuori nei momenti del pericolo. Non è un caso che molto spesso succede che persone, adesso parlo anche in maniera autobiografica, che durante gli anni scolastici normali, quando non c'era esame finale, si portavano a casa una o due materie a ottobre, invece quando c'era l'esame finale la maturità per esempio andava sempre benissimo, perché in quei casi si dà il meglio di sé, qualche volta addirittura si dimostra, si rende più di quello che si sa veramente. Insomma, anche questa, quindi ragazzi, usatevi questo jolly, perché può essere veramente un'ancora di salvezza. Il colpo di teatro che colpisce la commissione e risolve una questione altrimenti difficile. Marino, e poi insomma, così come aiuto finale, c'è anche tutta una schiera di santi, è vero, di protettori che possono essere utilizzati all'uopo in questa occasione. Certo, San Giuseppe da Copertino, che è un santo francescano del 600, quello famoso che volava, sì, e che dovette superare molte prove, studiare molto per superare esami di teologia. Il popolo lo chiamava anche l'asino che vola, ma da questo ovviamente non c'è nessuna allusione agli studenti meno dotati. E poi San Luca Belludi, che è un santo padovano, un discepolo di Sant'Antonio di Padova e quindi molto frequentato dagli studenti del nord Italia. Ma ci sono anche dei santi impropri, come Virgilio, per i grandi poeti come Virgilio e Leopardi, che non è un caso è sulla tomba di Virgilio e Leopardi, che sono sepolti a Napoli, entrambi a pochi passi di distanza l'uno dall'altro. Ci sono delle vere e proprie richieste di grazia, proprio di recente io ne ho viste alcune, le ho fotografate tutte, alcune mi hanno colpito molto, per esempio c'era una lettera firmata collettivamente da un gruppo di studenti olandesi di un liceo di Utrecht, che diceva: caro Virgilio, grazie per le tue parole ispirate, adesso siamo in grado di tradurre l'Eneide e ne andiamo fieri. Se puoi esaudire un nostro desiderio, per favore facci avere il massimo dei voti all'esame di latino. Una cosa molto singolare e curiosa, che il messaggio era scritto in inglese, forse i ragazzi pensavano che il massimo poeta di lingua latina non legga l'olandese, ma in compenso erano certi che parlasse correttamente l'idioma del villaggio globale, che poi sarebbe il latino di oggi. Fantastico, grazie davvero a Marino Gnola. E vuoi fare un in bocca al lupo da professore agli studenti che domani affronteranno l'esame? Un grande in bocca al lupo a tutti. Grazie Marino, ciao, buonanotte. Grazie a te, buonanotte. Ciao. Ci fermiamo il traffico, poi ancora qua in diretta con La Notte Prima degli Esami. La Notte Prima degli Esami. Sei shot, non fare quell'ultramolleggiato perché è un paio di shots. Non sputo nel piatto in cui mangio, ogni rima è un gancio di box. Chiuditi in box, ma se mi ascolti ti lascio il segno. Paolo Fox. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Hanno detto ricicli le rime che butto, beh, fidati è brutto, ora le sbocchi distrutto. Pensavi sugli occhi avessi il prosciutto? No, no, no. Speravi non me ne accorgessi, oh, rimanessi all'asciutto. Nel gioco del rap, grande debutto, Moreno alla Ralph, spacca tutto. Che confusione! Chissà, chissà in quanti di voi in questo momento staranno dicendo che confusione nella mia testa, la confusione delle ore prima dell'esame, dove ti sembra di non sapere più nulla, dove c'è il vuoto assoluto. E che confusione quello che canta nel suo album di debutto, Stecca, Moreno, il vincitore di Amici, che è qua con noi. Ciao Moreno. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Tra l'altro so che, si può dire, sei sul set del videoclip, vero? Esatto, siamo ancora sul set del video, ci mancano ancora delle riprese, quindi siamo ancora operativi. Grazie per averci dedicato un po' di tempo. Moreno, la maturità, che ricordo hai? Tu l'hai fatta? Perché mi stanno facendo... Io, la verità, ho fatto una delle scuole superiori di grafica pubblicitaria e a 16 anni ho intrapreso la strada da parrucchiere, dove ho fatto il parrucchiere in un salone a Genova per 6 anni. Sì? E quindi hai saltato l'esame di maturità e non l'hai vissuto sulla tua pelle. Ho saltato l'esame, diciamo che ho fatto un apprendistato di lavoro, quello è stato il mio esame, 5 anni di apprendistato prima di diventare lavorante. Sai che parlando con anche altri tuoi colleghi che non hanno fatto l'esame di maturità gli anni passati, mi dicevano che però di fatto si sono trovati a vivere gli esami di maturità di molti amici, perché le ansie e le tensioni, certo, degli amici poi ricadevano anche su di loro. È successo anche a te? Certo, mi è capitato di vedere miei amici che dovessero comunque dare degli esami e c'era anche la possibilità magari di guardarli in aula. E, sì, ho visto anche l'ansia nei loro occhi e uh-huh. Un esame è sempre un esame, quindi per farlo al meglio bisogna essere concentrati, essere anche un po' agitati a volte. Agitazione, ansia, paura, gambe che tremano, che immagino che ad Amici, insomma, ti sia capitato di vivere queste sensazioni tante volte, ogni volta che eri davanti a un giudizio. Che consiglio hai da dare ai ragazzi? Qual è il modo migliore per presentarsi davanti a una commissione? Ma l'educazione sicuramente, essere sempre se stessi e cercare di fare un bello spettacolo. Grande, questo mi sembra il consiglio più bello, ragazzi. L'esame di maturità può e deve essere un bello spettacolo. Moreno, sì. Prima di salutarci, ma vuoi farci, ci vuoi improvvisare proprio due parole a tema maturità? Vuoi fare un tuo in bocca al lupo in rima? Se tu mi chiedi di far freestyle, basta che mi chiami, io sono Moreno e faccio un augurio per i tuoi esami, tu che non capisci come suona il dado e tratto, e da Moreno un saluto a Radio 24. Grande Moreno, grazie davvero, in bocca al lupo, grazie, ti lasciamo al tuo videoclip. Tante grazie. Ciao, ciao, buona, buona, una buona serata, ciao a tutti. Grazie davvero. Questa è la notte prima degli esami, bellissimo il consiglio di Moreno, che sia un bello spettacolo l'esame di maturità. Andiamo in provincia di Reggio Calabria da Ivan. Ciao Ivan. Oh, sì, Reggio Emilia, no, Reggio Calabria. Ah, scusa, mi hanno scritto Reggio Calabria. siamo un po' tutti stanchi, okay, anche noi. Ivan, velocissimamente, che ricordo hai? Ah, niente, io quest'anno ho festeggiato i 40 anni del diploma con tutti i miei colleghi, che per fortuna li abbiamo trovati tutti. niente, ricordo che sì, dopo aver studiato per 3 settimane, tutti i giorni, per 12 ore, siamo arrivati finalmente a questo primo luglio, che allora c'era il primo luglio, si faceva gli esami nel 73. Sì. Niente, la notte non si è dormito come al solito, e la mattina tremavano le gambe, perché sai, purtroppo era molto importante, perciò niente, è andata bene, insomma, ecco. Bene, insomma è un ottimo ricordo. Però alla ricordo. Fine, dopo l'orale, che allora si facevano un orale solo, 2 scritti, feci una cosa che non avrei dovuto fare. Cosa? Cioè, sono arrivato a casa e ho buttato i libri in strada. Così ti sei sfogato e ti sei liberato del tuo passato. E mia madre corre a prenderli su. Ok. Grazie Ivan, grazie davvero. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mentre esce il 20 giugno Tulma, il nuovo horror firmato da Federico Zampaglione, che ha per protagonisti Michele Placido, Claudia Gerini e Michela Cescon. E insomma ci colleghiamo, prendiamo spunto questa parola horror e chiediamo a Claudia Gerini se il suo esame di maturità ha ricordi horror. Ciao Claudia. Ciao a tutti, come va? Oh, addirittura horror, no, dai. Infatti. Allora, il giallo si chiama Tulpa. Tulpa? Non Tulma. No, Tulpa. Ah, scusa, Tulpa. Comunque, Tulpa. No, grazie. Intanto io ho ricordi molto, mi ricordo che appunto avevo studiato anch'io per 2 settimane, tante ore. Ero una abbastanza già arrivata, abbastanza preparata, perché devo dire che non ero proprio, sono andata bene durante l'anno. Uh-huh. E mi ricordo che prendevo questo fosforo, cercavo di così caricarmi almeno psicologicamente, e ho fatto uno scritto così, uno meglio e un buon orale, però non ebbi un grande voto, mi aspettavo di più, ho preso tipo 40, una cosa così. C'erano 60 centesimi, certo. O comunque 42, cioè un voto bassino, e mi hanno un po' così, fatto che ero delusissima, però mi sono veramente molto consolata, perché sono partita subito dopo per un viaggio bellissimo con delle mie amiche. Mi ero organizzata comunque il premio, perché sapevo che se appunto ci fosse stato qualche intoppo, comunque mi aspettava la vacanza. Certo, Max, si parla tanto dell'esame di maturità come appunto una tappa fondamentale della propria vita, ma c'è anche il viaggio dopo l'esame di maturità, che è un'altra tappa altrettanto importante, infatti, vero? Infatti. Perché è proprio una... Beh, è così. Sì, la scoperta, no, del momento in cui piano piano inizia a diventare più indipendente, più adulto. E però ecco, sempre mi ricordo che ero appunto impegnatissima, stressatissima, però riuscii a dormire nonostante tutto questo fosforo, che non so se mi faceva bene o meno. Comunque che mi sentivo più intelligente, ecco, questo già è importante. Claudia, invece, tornando a Tulpa, questo nuovo film, ti sei divertita a girarlo? Guarda, è un film, appunto, mi sono divertita perché ci sono anche state scene di inseguimenti, d'azione, di suspense. Un personaggio, questo Lisa, pieno di sfumature, è pieno di appunto momenti, vari momenti, è una donna manager che ha una sorta di doppia vita, per cui c'è un mistero da scoprire, ci sono degli assassini, che appunto è un po' un ritorno al giallo, quello che ci spaventava una volta, e ha tinte sicuramente forti, però molto molto divertita, e l'ho visto anche coprendo ogni tanto gli occhi, perché alcune scene mi sconvolgevano, però che il resto, sono tutta una storia, secondo me, ben raccontata. Spero che il pubblico non è abituato tanto a vedermi in questo genere di film, anzi forse più commedie, più sentimentali. Questa è una scelta così per cambiare. Esplorare nuovi territori. Brava, grazie davvero Claudia per essere stata qua con noi. Anche in questa notte prima degli esami. Ciao, in bocca al lupo. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. E noi andiamo in provincia di Cosenza, con noi c'è Federica. Ciao Federica. Ciao. Non sei da sola, mi pare di capire. No. State studiando, immagino, vero? Allora, Federica, oltre ad essere voce, devi essere anche il nostro occhio. Cosa succede? Chi siete? Cosa vedi? Cosa c'è attorno a te? Siamo 5 classi del liceo classico scientifico. Sì. Siamo in riva al mare, stiamo bevendo! State festeggiando, ma andrete a letto anche a un certo punto? No, scusa, no, tieni il telefono vicino alla bocca, sennò non sentiamo nulla. Cosa? Ho detto, tra poco torniamo, dobbiamo andare a dormire. Ok, sì, insomma. Quindi avete fatto questo rito collettivo, vi siete trovati tutti insieme. Ogni anno è un rito, ok. Avete anche paura o siete tranquilli e sereni? Paura, tanta paura, però adesso c'è un panico. E quindi siamo tutti insieme, un po' ok. In bocca al lupo a tutti, Federica da Radio 24. Ciao. Un paio di minuti per tornare nella redazione di studenti.it con riusciamo a tornare a studenti.it? No, abbiamo sbagliato, chiediamo scusa i vostri sì, c'è la redazione, scusaci, eccoci qua, pronto? Pronto, eccoci, noi ci siamo. Ciao, scusa, avevo fatto confusione io con i nomi. Dove siamo? Cosa sta accadendo in rete in questi minuti? Allora, in rete in questi minuti siamo abbastanza pronti per la ritirata. Gli utenti cominciano piano piano a tornare nei ranghi, a tornare a casa o addirittura direttamente già a letto. Anche da un sondaggio che avevamo fatto di recente, i nostri maturandi ci avevano detto che la notte prima degli esami sarebbero andati a letto presto, perché per combattere l'ansia non avrebbero avuto bisogno di nient'altro se non di un sonno ristoratore. Tra l'altro questa... Complimenti, molto stoici. Beh, perché per molti è comunque un'esperienza personale, singola, questa di questa notte prima degli esami. Altri, come abbiamo appena sentito, invece fanno festa, si ritrovano, insomma, aspettano insieme la mezzanotte, poi vanno a letto e si ritrovano la mattina dopo per l'esame. Valeria, sui toto temi in rete c'è qualche last minute, qualche nuovo ingresso dell'ultimo minuto? No? No, c'è una nuova uno spostamento delle idee un po' sul Papa. Okay. Ma in linea generale i ragazzi si mantengono fermamente convinti di voler fare il tema di attualità e di non volerne sapere. Okay, perfetto, quindi... di tutte le altre prove. Beh, quindi rimangono solo attualità, che si pensa che sia il più facile, e invece insomma non invece sempre lo è. Delle insidie, nasconde non poche insidie, noi ne abbiamo parlato anche nel nostro libro. Ne parliamo dopo del libro sicuramente, così raccontiamo quello che avete fatto. Adesso ci fermiamo nel momento del GR, poi ancora qua un'altra ora in diretta con La notte prima degli esami. La notte prima degli esami. Sempre in diretta, sempre Radio 24, sempre la notte prima degli esami, in collaborazione con studenti.it, i vostri ricordi oppure le vostre ansie, le vostre paure, quello che state facendo adesso, manca poco a mezzanotte, manca poco ad andare a letto, manca poco alla sveglia, che suonerà per accompagnarvi al primo scritto, quello di italiano. 800 24 00 24, se tutto ciò volete raccontarcelo in diretta. 349 238 6666 per i vostri SMS, il nostro blog radio24.it nella sezione La notte prima degli esami, oppure usando questo hashtag Notte prima degli esami ci trovate anche su Twitter. Queste le coordinate per interagire con noi, ancora tantissimi ospiti, ma il primo è un contributo registrato, ho avuto la fortuna di incontrarlo domenica, sono andato a vedere un suo reading al Festival di Rimini Mare di Libri e ho chiesto a Fabio De Luigi come e cosa si ricordava del suo esame di maturità. Questo è quello che ci ha raccontato. Me lo ricordo molto bene, soprattutto mi ricordo che ero totalmente insicuro sul tema di italiano, cosa che era singolare, perché io ho sempre avuto grandi voti, l'unica materia in cui andavo bene era italiano e mi piaceva scrivere. Però l'ultimo anno incontrai una professoressa che si mise un po' di traverso e mi tolse le mie certezze, per cui mi ricordo l'ansia sul tema di italiano. E poi io, avendo fatto liceo artistico, ebbi quell'anno l'esame di architettura, feci un progetto pazzesco. Però no, mi ricordo anche che andai a fare l'esame di anatomia preparatissimo, invece anatomia il secondo anno del liceo artistico, era il programma riguardava i muscoli e i tendini, erano miliardi di nomi che ho imparato, lo dico adesso anche a mia difesa, visti i voti che poi sapevo tutto. E l'insegnante che invece mi del famoso membro esterno arrivò e forse per aiutarmi mi chiese invece una cosa molto banale, tipo il nome di un un'intersezione di un osso dell'omero, che è dopo la prima cosa che fai in terza, quindi l'anno prima. E io sbagliavo io, perché ovviamente avrei dovuto saperlo. E mi ricordo che dissi, vabbè, se questo è il clima, e mi sono alzato per andarmene, mi ricordo. Ah, proprio così? Già trasgressivo? No, trasgressivo, mi stavo, si può dire, cagando addosso, sì. Mi hanno richiamato, venga qua, no, ho perso completamente la testa, come quelli che hanno le crisi di ipotermia quando sono, cioè, una fuga dalla difficoltà, insomma. Questo è il mio ricordo della notte, no, della notte, proprio del giorno. E della notte prima hai qualche ricordo? La notte prima mi ricordo, perché ci sono diverse notti prima degli esami, no? Cioè, la primissima notte non me la ricordo, l'ho rimossa, credo, per motivi che è facile immaginare. Poi, rotto il ghiaccio appunto del primo giorno, credo ci fosse il tema di italiano, prima di un'altra prova scritta che poteva essere forse architettura, non so, ebbi un giorno di semi libertà, una serata, e ne approfittai per fare bisboccia senza motivo, prima di finire l'esame, però avevo già dato per buono che sarebbe andato bene. Però mi ricordo, è stata una delle prime serate in cui ho fatto un festeggiamento ante litteram, diciamo. Rifaresti l'esame? No, temo proprio gli esami di qualunque genere, da sempre sono un ansioso, per cui no. Grazie. Ma certe notti, macchina calda, e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Certe notti fai un po' di gagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare, nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrice chi festeggerà. Può restare soli, certe notti qui, che chi sa contenta gode, così così. Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario, prima o poi. E poi ci sono sono anche certe notti che magari si passano su un balcone perché tuo figlio sta dormendo e tu stai aspettando quella telefonata, quello che sta accadendo al nostro ospite. Noi volevamo Marco Mengoni, non l'abbiamo trovato, ci siamo accontentati di avere con noi Giovanni Vernia. Ciao Giovanni. Non è vero, non è vero, Mengoni l'abbiamo avuto lo scorso anno e, ah, sì. E, sì, e ha imitato Giovanni Vernia perché lui era avanti. Ma sai che Mengoni una volta mi ha imitato per davvero, davvero? A X Factor, sì sì sì, aveva litigato con Morgan, c'è un video su YouTube. E aveva litigato con Morgan, e Morgan aveva insomma rimproverato, ora non mi ricordo, e alla fine del video, per chiedere scusa, lui gli ha detto: ti stimo, fratello, gli ha detto. Giovanni, è sempre complicato chiedere a un comico, perché sai, uno si immagina che un comico anche durante l'esame di maturità faccia spettacolo, comunque, sì. O comunque faccia uso della simpatia per corrompere la commissione. È successo anche a te? Beh, insomma, è capitato. È capitato perché all'orale, insomma, io mi ricordo che all'orale, sì, è capitato questa cosa qua, che io più che far ridere ho usato la mia dote di improvvisatore per svoltarla a mio favore, insomma, perché era capitato che all'orale era uscita io facevo lo scientifico. Sì. E a quei tempi venivano sorteggiate due materie per l'orale, no? C'erano quattro materie possibili e tu ne portavi due, quindi le due fisse erano italiano e inglese. Sì. E poi ce n'erano due a sorte, e il mio anno capitò fisica e filosofia, solo che fisica non sapevamo nulla perché avevamo un professore Foggiano che proprio non gliene fregava proprio niente, non veniva mai a scuola, Foggiano, ma era una sua caratteristica personale. No, era proprio uno che gli interessava tutto tranne che insegnare la fisica, ma non perché fosse Foggiano, insomma, era Foggiano, era proprio che era proprio molto caratteristico come professore, no? E poi invece filosofia, anche quella non sapevamo niente, perché il professore, in quanto molto filosofo, lui durante l'anno tu non dovevi studiare, se però te ne uscivi durante la lezione con una trovata secondo lui geniale, lui ti dava il voto. Ok, e la trovata, cioè, quindi magari uno diceva una cosa che in quel momento per lui era geniale e lui ti dava un 8. E quindi io ero andato avanti tutto l'anno senza studiare manco filosofia, e quindi ho detto: cosa faccio? Niente, fisica la devi capire, filosofia insomma più o meno se la studi te la arrangi, e ho studiato filosofia. Mi sono chiuso in casa un mese a studiare il libro di filosofia. Sì. Soltanto che non ce l'ho fatta, che sembrava io avevo i capelli lunghi in casa, cioè, per un mese sembravo veramente Schopenhauer che girava, perché a mio padre si era preoccupato proprio perché parlavo per aforismi, era una cosa impressionante. Arrivo all'orale, non ero riuscito a studiare l'ultima parte però del programma, del libro, perché era troppo lungo. Arrivo e cosa mi chiedono? L'ultima parte. Cioè mi hanno fatto una domanda su Kant, a cui sapevo rispondere, e poi mi hanno fatto una domanda sull'ultima parte dei filosofi, insomma quelli che avevano dei contatti con la matematica, ora io non mi ricordo neanche i nomi. Sì. E questi qua praticamente non li avevo studiati, allora lì gli ho detto: guardi, io non lo so questa cosa, ma non per colpa mia, perché insomma non ci siamo arrivati durante l'anno, no? Al che il professore di filosofia, che era membro interno tra l'altro, sì, mi guarda e con la testa mi fa tipo: che stai dicendo, no? E gli dico, e io con la testa gli faccio: sì sì, è vero prof che non ci siamo arrivati. E lui insomma ha confermato questa cosa e io me la sono sgamata. Un 58 io alla maturità, ecco. Grazie a questa cosa. Sì, sì, sì. Su 60. Ora non so come vanno adesso i voti. No, sono centesimi. Centesimi, sì, centesimi. Sì. Ma avevi già l'abitudine anche di imitare i professori? O sì. Facevo. Mi ricordo, feci l'ultimo anno, proprio la maturità, c'era la tradizione al liceo scientifico di fare l'assemblea musicale. Cioè sai che ci sono tutti i gruppi che suonano, no? Sì, nelle scuole, le e quindi si faceva una riunione di istituto in cui era una festa, insomma tutti i gruppi si esibivano e io facevo il presentatore di questa riunione davanti a tutto l'istituto, 1000 ragazzi, e mi mise a imitare, cioè io ogni presentazione la facevo imitando un professore conosciuto, la preside, insomma ero Mi ero divertito un casino in quella riunione là. Poi ero già passato alla, ero diventato famoso nel liceo per queste imitazioni. È stata una palestra la scuola. Grazie davvero a Giovanni Vernia anche grazie per la... a voi. Abbiamo svegliato la bimba, no? No, sono fuori, sono sul balcone. No, perché abbiamo la casa piccolina, allora se dorme io non posso gridare. Ciao Giovanni, grazie davvero. Ciao. GiovanniVernia.it è il sito. Adesso invece andiamo in provincia di Milano, c'è un maturando che ci vuole raccontare, intanto perché non è ancora andato a letto. Andrea, cosa fai ancora sveglio? Cosa faccio? Mi sto facendo mangiare il fegato dal nervoso, diciamo. Ah sì, per essere delicato. Non sei sereno, c'è qualcosa che ti rode dentro. Sì, qualcosa che mi turba, ho perso la mia sicurezza facendo la tesina. Ah sì, su cosa l'hai fatta questa tesina che ti ha devastato? È una roba un po' strana, nel senso che io sono al liceo scientifico tecnologico, quindi dovrei occuparmi di fisica, chimica, biologia, solo che la mia vocazione non sono le scienze, quindi l'ho fatta sulla Cina e sul dibattito, diciamo, cioè il titolo sarebbe tipo la Cina tra paradossi, repressione e sviluppo economico. Ok, però così un consiglio da amico, davanti alla commissione mettici un po' di entusiasmo quando dici, quando dirai il titolo della tua tesina, sennò parti malissimo. Sì, okay. Sì. Cioè, ho scoperto delle cose allucinanti, ma veramente bruttissime, infatti sto perdendo la fiducia nel genere umano, diciamo. Una tesina devastante in tutti i sensi. Però l'abbiamo detto, insomma, la tesina può essere la svolta nel bene e nel male per l'esame di maturità, quindi in bocca al lupo. Domani arrivi davanti a quel foglio bianco già con le idee chiare, sai già se sceglierai il saggio, l'articolo breve, il tema storico o prima vuoi leggere i titoli. Penso che leggerò prima i titoli, perché diciamo che sono abbastanza indeciso, no? Sono abbastanza insicuro, non so se si sente anche dal modo in cui parlo. E per me andrebbe bene fare anche l'analisi del testo, cioè nel senso, finché trovo qualcosa che non mi coinvolga né troppo né troppo poco, diciamo. Ok, intanto ormai hai perso la fiducia nel genere umano, quindi esatto, chi ti ammazza, esatto. Ok, in bocca al lupo Andrea, vai a dormire che è ora, ok? Sì. Grazie. Sì, sì, sì. Ciao, grazie. Ciao. E mentre Andrea cerca di riconquistare fiducia nel genere umano, noi invece andiamo lontanissimo, andiamo a Denver, perché con noi c'è un campione dell'NBA. Diamo il benvenuto a Danilo Gallinari. Ciao Danilo. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Danilo, stai seguendo la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio. Per uno sportivo, vero, stare fermo sul divano a guardare gli altri giocare, altro che esame di maturità. Molto più difficile, direi. Molto più difficile, però dai, fa parte del lavoro, si recupera e si torna più forti di prima. Dai. Sto chiedendo un po' di Toto Traccia, a te invece chiedo un'altra previsione, chi vince questa finale NBA? Ma io spero San Antonio, però a questo punto non lo so, adesso Miami ha due partite in casa, è molto difficile vincere in casa da loro, non lo so, però io tifo San Antonio perché c'è Manu Ginobili che è uno dei miei giocatori preferiti da quando sono piccolo. E quindi guardi le partite con l'occhio del tifoso, oltre che quello del giocatore, oltre che quello del collega? Abbastanza, sì. Mi sarebbe piaciuto essere lì a me giocando, ma... capiterà un altro anno, dai. Certo, al prossimo giro. Danilo, torniamo invece al tuo esame di maturità, che ricordi hai? Perché per gli sportivi, poi per gli sportivi di livello è sempre un po' problematico, no? Far conciliare gli allenamenti con le ore di studio. Sì, beh, non è mai stato facile, però insomma sono sempre riuscito abbastanza bene, devo dire. I ricordi sono ricordi positivi, anche se mi ricordo ancora la tensione che c'era prima dell'esame, e mi ricordo che, tra l'altro, uno dei miei sogni più ricorrenti, non so perché, ma sogno sempre di tornare indietro e essere lì che faccio la maturità, quindi vuol dire che mi ha colpito abbastanza come momento della mia vita. È bello, questo sogno che ritorna è veramente una costante in tantissime persone. Comunque lo ricordi, al di là anche per te, una domanda che ho già fatto questa sera più volte, ma mi piace tornarci, oltre che una prova scolastica, comunque è stata una prova di vita. Assolutamente, assolutamente, perché è un passo, uno dei passi più importanti della crescita di un ragazzo, e la maturità è proprio il significato di diventi maturo, insomma, quindi è veramente un appuntamento importante. Io l'ho fatta a Milano, e era l'ultimo anno, anzi il primo anno di Serie A che giocavo a Milano, e quindi insomma capisci che tra impegni sportivi e maturità non era facile, ma la scuola è sempre stato il mio primo obiettivo, inculcato dalla famiglia, quindi è sempre stata la mia prima preoccupazione. Domani ci sono 500.000 ragazzi che andranno all'esame, facciamo così, sono 500.000 Manu Ginobili, quindi i tuoi amici che hanno davanti a loro una prova, qual è l'SMS che manderesti, qual è l'augurio, cosa scriveresti? Scriverei come si usa adesso le nuove generazioni, in groppa al riccio, sperando che non si spaventi. Ok, mi sembra un'ottima immagine. Sì, No, scriverei insomma che è di stare tranquilli, carichi, che è un appuntamento importante, ma nella vita ci sono tante altre cose che sono molto molto più importanti, quindi è un appuntamento che fanno dove ci passano tutti, e va via liscio come un Perù. Bellissimo, grazie Daniele, in bocca al lupo, ti aspettiamo prestissimo sul parquet di nuovo, ok? Grazie a te, ciao, buona serata, ciao a Danilo Gallinari direttamente da Denver. Invece torniamo là in redazione con studenti.it da Valeria Roscioni. Valeria, prima ci stavi parlando di Promossi, che è il libro che avete pubblicato con studenti.it, che è una sorta di piccola bibbia sul come superare l'esame, sul come essere promossi in generale nella vita, giusto? Eh sì, Promosso è un po' la guida di sopravvivenza di studenti.it, che raccoglie tutta la nostra esperienza di tutti questi anni di maturità che noi siamo maturandi a vita, forse un po' in redazione, ci maturiamo tutti gli anni. E quindi la cosa importante è che che Promosso cerca di fare è spiegare l'esame agli studenti con un linguaggio molto molto tranquillo, molto alla loro portata, facendoglielo vedere come una prova che si può serenamente superare, basta avere presente quelle 4-5 dritte che guidano il cammino durante l'anno e soprattutto durante questi ultimi giorni di studio matto e disperatissimo, per dirla con Leopardi. Valeria, prima di salutarci, prima di ritrovarci poi per i saluti finali, c'è una qualche altra chicca che hai estrapolato dalla rete o dagli studenti in questi minuti? Guarda, io ho chiesto loro che cosa, insomma, ero interessata dal racconto di quella ragazza che aveva detto che sarebbe andata a fare colazione con i suoi amici. Sì. E così ho chiesto ai nostri utenti, loro se facevano colazione, dove e con chi. E niente, i ragazzi domani hanno detto che non mangiano e che corrono a scuola, perché l'ansia, probabilmente anche giunti a quest'ora della notte, si sta facendo davvero davvero sentire. Okay, che è un errore, questo l'avete detto anche tante volte voi. Sono sei ore di prova, bisogna avere un po' di carburante, altrimenti. Infatti, si rischia noi nel kit del maturando consigliamo sempre di portare una piccola merendina a scuola, che non si sa mai, calori, zuccheri. Esatto, grazie Valeria, da studenti.it ci ritroviamo fra pochissimo. Adesso un altro ospite in questa notte prima degli esami, diamo il benvenuto a Giulia Innocenzi. Ciao Giulia. Ciao a tutti. Allora, la parola maturità dove ti riporta subito, immediatamente, così distinto? Ma ovviamente mi riporta al tavolo della cucina, dove preparavo gli esami nella calda estate del, non mi ricordo neanche più che anno, penso al 2003. Tu eri bravina a scuola, vero? Ma ero abbastanza secchiona, sì. Ci tenevi, insomma. Ma ci tenevo da quando hanno inserito i crediti, prima non me ne fregava letteralmente niente, infatti in prima e seconda liceo studiavo dalle 10:30 a 11 di sera in poi, invece poi quando hanno messo il sistema di crediti ho detto vabbè dai, ma se vale a qualcosa allora studio. Ok, e che ricordo hai tipo della notte prima degli esami e degli esami stessi? Ma devo dire, penso di essere stata abbastanza tranquilla perché non ricordo niente. Perfetto. O eri completamente fuori o eri assolutamente tranquilla? No, penso che fossi abbastanza tranquilla, invece ricordo molto di più i test d'ingresso all'università, quelli sì. Uh-huh. E ma ricordi invece, avevi fatto la tesina su quale argomento? Il principe di Machiavelli, uh-huh. Quindi declinato all'oggi, adesso non ricordo assolutamente come l'avevo approfondito, però mi ero divertita a farla. Giulia, prima di salutarci, dai un consiglio ai ragazzi per lo scritto di domani, nello specifico per quello che è magari il saggio breve o l'articolo di giornale. C'è una dritta che tu vuoi dare così da giornalista? Non essere banali. Allora, la maggior parte sceglie l'attualità, che è sempre un salvacondotto abbastanza sicuro, diciamo così, perché se poi ci si arrischia a fare il tema più difficile e non si sa niente, allora meglio fare l'attualità, questo sicuramente, però se poi si scade nella banalità si è sprecata una grande occasione. Invece magari scegliere il tema d'attualità che si va sul sicuro, però trovare una chiave originale può essere un buon punto di svolta per la propria maturità. Toto Traccia, non ti chiedo quale titolo uscirà, ma un titolo che ti piacerebbe che uscisse. C'è un argomento che vorresti che domani i ragazzi trattassero nel loro esame? Ma si parla sempre di giovani, ma non sono mai giovani a parlare di sé, oppure non li ascoltiamo. Secondo me una cosa interessante sarebbe chiedere perché l'Italia è un paese per vecchi, non è un paese per giovani, e loro cosa proporrebbero di fare e se loro si sentono che potranno fare qualcosa, perché spesso si dipinge anche la nuova generazione come ormai disillusi, senza speranze, e invece vediamo un po', magari potrebbero anche venire fuori idee interessanti da mettere in pratica e da offrire anche al governo Letta, perché no? E infatti non è male, è un tema per giudicare i ragazzi, ma soprattutto per carpire idee, proposte, sogni e visioni. Grazie davvero a Giulia Innocenzi, ciao Giulia, buona serata. Grazie a te, ciao a tutti. La notte prima degli esami. Questo suono continuiamo a vivere questa notte prima degli esami, ci facciamo accompagnare da questa tromba, e la tromba è la musica di Paolo Fresue. Paolo Fresue qua con noi, ciao Paolo. Allora, buonasera, scusate, ho pochissima voce ma spero di farcela. Cos'è successo? Ma è successo che appunto ho sentito prima le vostre previsioni del tempo, tra caldo e freddo uno ci lascia la voce ogni tanto, ma ci siamo, ecco. Insomma, quasi ci dispiace, ma insomma ti ruberemo pochissimo tempo, ma sì. volevamo rivivere anche la tua maturità, che ricordo hai di quella notte prima degli esami e dell'esame stesso? Ma dunque, io ho attraverso un ricordo ormai un po' lontano, forse meno quello del diploma al conservatorio di musica, ma la possiamo chiamare maturità lo stesso. Ricordo la maturità naturalmente con molta apprensione, perché ero comunque bravo a scuola e mi piaceva studiare, quindi anche se l'ultimo anno ho fatto un po' da cattivo perché mi ero iscritto al conservatorio allo stesso tempo, però comunque insomma ero abbastanza preparato, quindi non ricordo una grande apprensione per l'esame di maturità, perché poi subito dopo peraltro dovevo partire per andare a Siena ad imparare il jazz, per cui non vedevo l'ora di chiuderla, insomma. Mentre ricordo, devo dire con molta apprensione, il diploma al conservatorio di musica, quello sì, ero veramente molto agitato, perché poi suonare lo strumento implica anche un contatto fisico, insomma, molto importante, ci sono cose legate alla respirazione, e devo dire che in quei casi, insomma, in quella occasione particolare, devo dire, è stato uno dei momenti probabilmente più complicati e più tesi della mia vita. Quindi sono un po' i due ricordi di quel momento. Ti piacerebbe vedere in un qualche modo la musica domani nelle tracce dei temi d'italiano? Ma devo dire, mi piacerebbe molto vedere la musica, mi piacerebbe molto vedere l'arte, vedere tutto quello che riguarda la cultura. Mi sembra che questo sia un momento estremamente delicato in cui si pone, anzi in cui non si pone al centro delle nostre discussioni anche quello della cultura, che penso che sia uno degli strumenti fondamentali della nostra civiltà e anche del nostro paese. Quindi mi piacerebbe molto vedere nei temi di domani veramente un qualcosa che riguardi l'arte, che riguardi la cultura, che riguardi anche l'immaginazione, la creatività, perché penso che siano, soprattutto per i giovani, uno dei passepartout più importanti per cercare di iniziare ad aprire le porte della vita, e speriamo che possa essere così. Dubito, ma insomma, come dire, la speranza è l'ultima a morire. E facciamo nostro questo tuo auspicio, ti lasciamo, non vogliamo violentare ulteriormente la tua voce. Grazie di cuore a Paolo. Grazie molto, scusatemi, buona serata. Ciao Paolo, grazie. E adesso è arrivato il momento di sfatare una leggenda metropolitana, e lo vogliamo fare perché c'è chi guarda avanti alle scuole italiane all'estero, in particolare a quelle in Australia, ci sono 10 ore di differenza, per sperare di avere in anticipo il titolo delle tracce, perché dicono appunto, essendo 10 ore avanti, la aprono prima le buste, quindi perché non telefonare all'ambasciata in italiana per sapere se queste tracce già ci sono e magari farsele dire. Ogni anno questa cosa accade, quindi anche noi abbiamo deciso di chiamare l'ambasciata italiana in Australia, e con noi c'è Alessandro Giovane, primo segretario a capo della cancelleria consolare dell'ambasciata. Buonasera Alessandro. Ciao, buonasera agli ascoltatori. Attenzione, perché adesso immagino tante orecchie di maturandi lì pronti a carpire le tue indicazioni. Voi avete le tracce? Ahimè, tante orecchie pronte ad essere deluse. Noi non abbiamo purtroppo nessuna traccia, ma dirò di più, nessuno in Australia ha queste tracce, per una ragione molto semplice, cioè che queste tracce in Australia non ci sono. Giustamente hai detto bene che si tratta di una leggenda metropolitana, nel senso che questa leggenda presuppone che, diciamo, per essere vera, presuppone che ci siano delle scuole italiane in Australia, e quindi delle scuole particolari secondarie, quindi delle scuole dove ci si svolga un esame di maturità, e ovviamente esame di maturità in cui le tracce possono essere lette da degli studenti per come dire, elaborare i rispettivi temi. Queste scuole però in Australia non esistono, cioè l'Italia non ha scuole secondarie in cui si svolgano esami di maturità in Australia. Mm-hmm. Ne consegue che ovviamente non ci sono i temi, ed ecco perché nell'ambasciata né nessuno in Australia dispone di questi temi. Ecco, e quando gli studenti telefonano per chiedere se è vero che lì ci sono le tracce, rispondete ancora, fate una risata, li mettete in attesa, guarda, infinita? Devo dire, in effetti noi pazientemente spieghiamo a tutti che ovviamente le scuole italiane non ci sono in Australia, quindi non ci sono esami di maturità italiane, non ci sono le tracce, ergo insomma. Peraltro devo dire che malgrado sia un fenomeno che si ripete, ogni volta ci sorprendiamo dell'accume dello studente che pensa che in effetti laddove il fuso orario è più anticipato come in Australia, in effetti queste tracce possono essere date prima, perché la deduzione alla base è corretta, e poi purtroppo abbiamo visto sfatata per altre ragioni, però ecco, ogni volta è anche piacevole vedere che ci sono persone che queste cose le pensano, e quindi arrivano a immaginare un escamotage che è astuto, quindi ma perdendoci tempo nostro, non più studenti, ci viene facile pensare che se uno studente arriva a immaginare, no, che forse riesce a ottenere le tracce in anticipo giocando sul fuso orario, vuol dire che ha sicuramente l'astuzia, l'abilità, l'intelligenza, la prontezza di spirito per far fronte molto brillantemente anche alle vere tracce che vengono date in Italia, insomma, per le quali ovviamente occorre aver studiato. Grazie davvero ad Alessandro. Vuoi fare un in bocca al lupo 10 ore avanti? Un in bocca al lupo 10 ore avanti, assolutamente, di cuore a tutti i ragazzi, nervi saldi, e soprattutto non demoralizzatevi se così di primo acchito il tema o i temi dispiazzano. Credeteci fino in fondo, detto da un ex maturando di tanti anni fa, e fate appello a tutte le vostre risorse, che con calma saprà andare senz'altro meglio. Bocca al lupo a tutti. Grazie davvero Alessandro Giovine, primo segretario e capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata Italiana in Australia. Ciao e buongiorno per te e buona serata per noi. Ciao, grazie a tutti voi. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just ancora ospiti in questa notte prima degli esami, perché la notte prima degli esami può corrispondere anche con la notte prima di un debutto, ed è quello che accadrà a Brenda Lodigiani, attrice e conduttrice. Ciao Brenda. Buonasera a tutti, ma che bella canzone, I Will Survive. La stai ballando? Sono qua a Fiorenzuola d'Arda, che sì, sono fuori dal teatro e sto ballando come una pazza, però non c'è nessuno perché poca gente vive in questo posto. Anche perché se Stefano Benni ti vede ballare come una pazza potrebbe anche cacciarti a 24 ore dal ragazzi, debutto. No ragazzi, voi non sapete che cosa succederà domani, ve lo anticipo tanto, lui ballerà Beyoncé. Volevo dirvi questo, sì, perché sei un po' rincoglionito, mi sa. E quindi sì. Sua insaputa, tra l'altro. Esatto. E quindi voi glielo ricordate facendovi fare queste cose. Come si intitola lo spettacolo che fate insieme, Brenda? Mary e il poeta. Io sarò una merla, non un'altra cosa. Ecco, ed è molto divertente, è un'anteprima quella di domani, poi da ottobre gireremo l'Italia e il mondo, prima imparerò l'inglese e poi comincerò a girare, ecco. Ti invidiamo tutti, ma per la frequentazione che avrai con Stefano Benni, insomma, siamo tutti abbastanza suoi fan, quindi ti invidiamo. Una coppia strana, esatto. E Brenda, so che è stato strana anche la tua notte prima degli esami, vero? Sì, in realtà sì, perché io non ho studiato, e come tra l'altro, vabbè, si sa, si vede, si sente, ma la notte prima degli esami io ero nella mia cameretta e scrivevo una lettera d'amore al mio tabaccaio Ivan, che magari all'ascolto lo saluto, il mio tabaccaio di Lodi, e quindi niente, gli ho scritto questa lettera d'amore in cui appunto gli spiegavo che provavo delle emozioni fortissime da anni, e poi sono andata a consegnargliela vergognandomi ovviamente come una ladra, perché insomma ci ho fatto una figuraccia, e niente, lui non mi ha mai più risposto, non sono mai più andata da lui a prendere le sigarette, ed è stato orribile, è stata orribile la notte prima degli esami. E gli esami come andarono? È abbastanza bene alla fine, devo dire che sono passata con 70, ma non so per quale motivo, è stata tutta fortuna, perché ho fatto degli scritti abbastanza buoni, ma poi degli orali abbastanza orrendi e mi hanno praticamente cacciata. Vabbè, ma sto facendo un'ottima pubblicità, devo dire, ma poi adesso sto recuperando con Stefano. Sì, beh, ok. Ah, sì, lui mi fa leggere Lady Macbeth e io gli insegno Beyoncé. Ma infatti, guarda, questa accoppiata... Tu raccontavi la tua nottata col tabaccaio, ma io ero ancora lì. A trovare i sette. Hai presente tipo settimana enigmistica, no? Trova i sette punti in comune tra Stefano Benni e Brenda Lodigiani, e niente, non ce la faccio. Non ne ho trovato neanche uno. Ma va bene, è il bello, credo, insomma, di questa strana commistione. No, è troppo divertente, ci divertiamo veramente tanto, e ne facciamo di tutti i colori, da Beyoncé, poi tocchiamo magari degli argomenti un pochino più profondi, torniamo a casseggiare ancora, dura un'ora e un quarto lo spettacolo ed è davvero molto divertente. Mi prometti solo di non farmelo biondo? Non lo so, non lo so, sai. Vabbè, ok, vabbè. Non lo so. Teniamo aperta anche questa possibilità. Potrebbe essere. Grazie Brenda, in bocca al lupo e salutaci Stefano. Okay. Posso dire l'ultima cosa? Certo. Ivan, io ti amo. È il tabaccaio o è quello sì, nuovo? Okay. È il tabaccaio. Che è ancora là, che aspetta. Magari. No, non mi aspetta, perché lui è innamorato di un'altra da anni e anni. Io non capisco perché. Però capita anche capita, questo. Sono storie che capitano, se ne conosco, ne conosco. Grazie, ciao Brenda. Ciao, ciao un ciao. Bacione. Ci ciao, fermiamo ciao. Il traffico, poi ancora qua per gli ultimi minuti di questa notte prima degli esami. La notte prima degli esami. Cerco di trovare la mia identità senza chiedere aiuto, ma sono lontano. Busso e non risponde neanche un'anima. Meno male che non ho paura del buio. Non ho niente per me, ma non dispero. Mangio solo pare cattiveria ormai, e non è un buon motivo per esserne fiero. Cammino da solo e non mi volto mai. Non posso perdere. Disposto a sbagliare solo per crescere, non so com'ere. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. È facile dire che ci vuole calma e sangue freddo. Tra l'altro qui con lo staff ci stiamo ancora confrontando. Finiremo o no questa puntata con Venditti? Ma ogni anno è così, non sappiamo. Gli ultimi secondi di solito glieli dedichiamo. Non so se Carmelo in regia ce la farà a spingere quel tasto. Adesso sono molto felice di avere insomma un monumento dello spettacolo, della storia della televisione e della radio da ieri sera in onda con questo programma che torna, questo suo viaggio nell'Italia, un viaggio in quattro puntate su Rai 3. Diamo il benvenuto a Pippo Baudo. Ciao Pippo! Ciao, ciao, ciao, ciao! Come stai? Io sto bene, viaggio, quindi... viaggiare è stanca, si dice, però si imparano tante cose. Pippo, adesso ti faccio fare un viaggio nel tempo, andiamo alla tua maturità, te la ricordi? Mamma mia, me la ricordo... come una tappa importante nella mia vita, perché io desideravo a qualunque cosa arrivare all'università. Sì. Aspettavo l'università perché lì avrei creato un mio centro universitario teatrale e avevo l'accordo con il magnifico rettore di Catania, San Filippo, il quale voleva fare un teatro per l'università. Io ne sarei stato il direttore. Avrei quindi guadagnato un piccolo stipendio, quindi mi sarei un po' emancipato dai miei e avrei messo in scena un sacco di lavori. Mm-hmm. Abbiamo fatto Anguodò di Beckett, abbiamo fatto Casa sull'acqua di Betti, abbiamo fatto anche una mia commedia scritta in coppia con Pippo Fava, il giornalista che è stato purtroppo assassinato dalla mafia. E, insomma, abbiamo fatto una cosa bella, quindi per me superare lo scoglio della licenza liceale Era indispensabile. Perché comunque eri già un diciottenne, un diciannovenne molto intraprendente. Sì, io avevo un fuoco, non vedevo l'ora di fare l'università, di fare il teatro e di andare a Roma. Uh-huh. Roma era la mia Mecca. Uh-huh. È bello questa cosa, quindi l'esame in maturità è veramente come uno scoglio così, ma qua, sì. da sorpassare per poi avviarsi verso la vita. Ma hai ricordi di paura, di terrore legato? Ma guarda, siccome allora si portavano i programmi di tutti e tre gli anni, gli sì. ultimi anni, uh-huh. quindi era piuttosto dura la prova. Io avevo trovato un sistema, mi alzavo la mattina alle 5, eravamo in tre amici, tre compagni di scuola, avevamo tre biciclette, facevamo dalle 5 alle 9 studio, sì. alle 9 si partiva in bicicletta per scaricare le tossine, facevamo una decina di chilometri ma anche di più, tornavamo a colazione e ripetevamo ancora a studiare. Questa è una specie di full immersion che è durata quasi due mesi, quindi quando siamo andati agli esami eravamo carichi, eravamo veramente preparati. Ti hai rifatto già una scaletta anche lì, insomma. No, la scaletta non l'ho fatta, ma modestamente tutti e tre noi che abbiamo studiato insieme abbiamo superato agevolmente lo scoglio della maturità. Quando sono andato a vedere i voti appesi al muro, mio padre era un po' preoccupato, invece ero sicuro, e appena ho detto ecco, benissimo, mi iscrivo in giurisprudenza, così dirigo il teatro, divento, mio padre diceva, diventi avvocato, questo non è detto, gli ho detto a mio padre, questo non è detto, questo non te lo prometto, mi iscrivo all'università in giurisprudenza, ma non ti prometto farò l'avvocato. Bravo, promessa non mantenuta. Perché, mia madre insomma... diceva no, farai il medico, no, ti prometto che farò il medico, perché mia madre odiava il mondo dello spettacolo, perché mi diceva, ah, in mezzo a tutte le ballerine, che fine farai? Pippo, prima di salutarci, un'ultima domanda, c'è un argomento, c'è un tema che ti piacerebbe vedere domani tra le tracce della prova d'italiano? È arrivato Francesco al Vaticano, che cosa è successo, che cosa era accaduto, che cosa accadrà? Ecco, questo è il titolo scelto da Pippo Baudo. Grazie davvero Pippo e buon viaggio. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pippo Baudo che ha scommesso sul Papa come traccia, come tanti, insomma, hanno tirato fuori la storia dei due papi, ma lo sappiamo che solitamente poi i temi più gettonati sono quelli che non escono. Andiamo a salutare la redazione di studenti.it, con noi Valeria Roscioni. Valeria, prima di darci la buonanotte, anche perché voi domattina all'alba già sarete lì, perché sono giornate caldissime, con cosa... Sì, noi da subito, dalla mattina presto, siamo al fianco degli studenti. Esatto, con cosa ci saluti? Qual è l'ultima dritta che ci vuoi lasciare? Beh, vi saluto con una dritta che riguarda più gli orali, perché c'è un servizio che è classico di studenti.it che è il CercaProf, cioè un motore di ricerca dove tutti gli studenti possono recensire i propri professori e quindi poi cercarli per capire un po' di più sui loro commissari esterni, quali domande fanno, quali sono le loro fissazioni, se sono severi, se sono buoni. Insomma, recensire un proprio professore e poi andare a cercare qualche notiziola in più sul commissario che potrebbe essere una carogna. Una sorta di guida Michelin sui commissari. Esatto. No, non è male. Con tanto dei più bravi della classe messi in evidenza. Valeria, grazie davvero. Ricordiamo, studenti.it vi accompagnerà per tutti gli esami, perché domani si parte, ma poi sono diverse le settimane che comprendono gli esami trascritti e orali. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Ciao Valeria. Grazie il lupo, grazie. Grazie. Ciao. Io ringrazio, prima di annunciare l'ultimo ospite col quale chiuderemo questa bellissima serata dedicata alla notte prima degli esami, ringrazio tutto il mio team, Vittoria Mussini, Miriam Lucchetti, Benedetta Acri che hanno con me scritto la puntata, Carmelo Lauricella la parte tecnica, mentre al centralino c'era Silvia Camesasca, che ringrazio perché insomma è stata una dura serata anche per lei. Questa la squadra che ci ha accompagnato verso gli esami di maturità, e chiudiamo con uno scopritore di talenti, chiudiamo con una persona che spesso è stato giudice, spesso è stato coach, sa lavorare coi giovani, sa come accompagnarli ad affrontarli prove toste come un esame. Diamo il benvenuto a Rudy Zerbi. Ciao Rudy. Ciao Federico, magari sapessi accompagnarli sarebbe molto bello, però se ci fosse la guida degli studenti dei quali parlavate prima, sicuramente io sarei nei commissari bastardi, quelli da evitare, no? Ah, sì, ma apparentemente poi invece dietro, vero, scavando vero, dentro si trova. Però mi hai chiamato per schiacciare insieme a te il pulsante di Venditti, di la verità, per far partire il pezzo, perché ormai ci siamo. Sì, sì, esatto, prima poi è come stappare, no, la bottiglia di mezzanotte. Esatto, no, voglio prima sapere il tuo esame, come andò? Guarda, il mio esame andò in questo modo, che io ero in piena passione Morris e Smith e per cui decisi che facendo il liceo linguistico avrei fatto tutto l'esame di inglese su Oscar Wilde, perché volevo fare anch'io quello ispirato a Oscar Wilde per copiare i miei miti, e feci un brillante esame di inglese su Oscar Wilde. Fu matematica che poi rovinò tutto, anche perché ai tempi c'era l'esame di maturità, era un po' strano, era difficilissimo da capire, cioè tu potevi scegliere delle materie, ma all'ultimo secondo il commissario te ne poteva scegliere altre due, non so se ricordi. Certo. In quel periodo. era un po' complicato come fare un 740, non si riusciva a capire bene come fosse la regola, e per cui una cosa andò benissimo e una cosa andò malissimo, e credo, ho ancora un dubbio se alla fine chiusi con un 38 o un 40, però comunque insomma fu un esame abbastanza particolare, la matematica mi rovinò, ma l'inglese andò benissimo, e ancora oggi io racconto di Oscar Wilde come se fossi oggi. Tra l'altro Oscar Wilde di aforismi sullo studio ne ha fatti tantissimi, più bello dell'altro. Ah, quindi li avevi usati così come baci porigino, ogni tanto dicevi un aforismo e facevi bella figura? Ecco, come, scusami? Li usavi così come fossero messaggi dei baci Perugina, ogni tanto bravo, ti giocavi un aforismo. Anche in momenti assolutamente proprio inopportuni, no? Li tengo lì e ogni tanto per far bella figura li uso. Rudy, c'è un in bocca al lupo particolare che vuoi mandare a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo? Senti, fammi usare un aforisma di Oscar Wilde, così chiudo in bellezza se vuoi. Ci piace, vai. Vado? Allora, guarda, scelgo questo qua, dai baci Perugina, quello che mi ha colpito di più è questo. L'istruzione è una cosa ammirevole, ma ogni tanto ci farebbe bene ricordare che non si può mai insegnare quel che veramente vale la pena di conoscere. Bello, bello, lo facciamo nostro. Rudy, dai, lanciamo Venditti, perché è sempre quello, insomma, è un pezzo sdolcinato, un pezzo che tutti conosciamo, un pezzo che si dice un po' e lo si ascolta una volta all'anno, però alla fine è lui la colonna sonora dell'esame di maturità. Beh, vero? Non c'è un altro pezzo, dai, sono quelle cose che bisogna, cioè, è un po' come Jingle Bells a Natale, come fai a non usarlo? hai ragione. Buonanotte, ormai è il giorno prima, è il giorno dell'esame, non è neanche più la notte prima degli esami, ascoltiamolo a questo punto. Ascoltiamo, ciao Rudy, grazie. Ciao Federico, grazie a tutti, ciao. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte ancora... Che sia una bella avventura, che sia una bella storia, che sia il vostro esame. Buonanotte, buon esame da Federico Taddia, ciao! La notte prima degli esami.